si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua il 30 dicembre. Buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. 800 24 00 24, staremo insieme fino alle 20:30 e aspettiamo naturalmente i vostri interventi che vogliamo anche cominciare, cioè siamo proprio in clima, insomma, di fine anno. Sui giornali non si parla altro che di bilanci post natalizio, ma pre fine anno, diciamo. Bravo, c'è questo momento così tra l'incudine e il martello. Quella settimana passerà, che buttiamo via tutti di solito. Bravo, passerà. Saremo liberi il 2 gennaio, il 1 gennaio, cioè finalmente scarichi da tutte queste. Hai detto giusto, il 2 gennaio, l'uno non conta, i postumi della sbornia e basta. Allora, noi vorremmo anche chiedervi, cari ascoltatori, oltre a intervenire sui temi dell'attualità, che come sempre non mancano, anche che cosa vi portate dietro da questo 2013, e nello spirito di Si può fare, noi diciamo il bello dell'attualità che cambia. La bella notizia, la più bella notizia del 2013 che vi portate dietro, in un anno che comunque è stato difficile, c'è cioè la crisi, l'economia che non va, la politica la che non ci dà. Pare che ci sarà anche l'anno prossimo. Scusi, possiamo dare in anteprima questa notizia? Sì, diamola adesso, pare. Visto che siamo appunto tra l'incudine e il martello, cioè alle soglie del 2014, diciamo, ci sarà la crisi anche nel 2014. Esatto. Ma Letta ha detto che non no. È la buona notizia, che questa, non è questa la buona. Ovviamente. Possiamo fare qualche esempio, non lo so, per qualcuno potrebbe essere l'elezione di Papa Francesco, il papa che certo. Rivoluziona la chiesa dei poveri, un papa di cui si parla tantissimo e benissimo. Questa potrebbe essere Infatti, il primo papa che viene eletto senza diciamo aver aspettato la morte di quello precedente. Quindi anche questo è un fatto rivoluzionario. Ogni volta i papi si aggiungeranno semplicemente. Oppure è bella anche la notizia che abbiamo sentito poco fa nel giornale radio, il boom di visite ai musei quest'anno rispetto all'anno scorso, quindi anche questa è una bella notizia per la nostra cultura. Sì, non so mai se la danno il giorno in cui c'è stato il giorno dei musei aperti, nel senso che il gratis va sempre moltissimo. Però il confronto era con l'anno scorso, quindi diciamo che i musei aperti c'erano anche prima, ma la gente non ci andava. Sei bravissimo, vedi, riesci sempre hai ragione tu. Oppure non so, altre cose, per esempio a me ha colpito molto questa grande unità del mondo, tutto ai funerali di Mandela, cioè forse la prima volta al mondo, questa è una cosa seria, che la prima volta nella storia che non so, non c'è stata una piega, qualcuno contro Mandela, una figura bellissima, importantissima, grandissima, purtroppo è morto, ma insomma l'età che aveva era tale per cui poi stava male. Ma la bella notizia anche qua è stato questo unità, questo senso di commozione davvero globale. Potrebbe escluso essere anche il traduttore, questo. Diciamo. Quello è stato un personaggio incredibile. Un pezzo veramente, un numero comico straordinario. Ancora ci domandiamo come sia salito su quel palco. Vabbè, questi sono solo alcuni esempi. 800 24 00 24. Tu Carlo ce l'hai una bella notizia? Ma la io più come la più bella, uno potrebbe dire che la bella notizia del 2013 è che è finito, però questo diciamo sarebbe una roba negativa. Poi io, non essendo forse un giornalista, ho una bella notizia che è anche ego riferita, se vogliamo, sì. Ovvero che dopo aver pubblicato la lettera su Repubblica sul mio coming out e dopo il video che c'è su YouTube della marmellata e la Nutella, mi ha scritto un ragazzo che mi ha detto: dopo 9 anni mi ha chiamato mio padre e loro non si parlavano da quando il padre aveva scoperto che il figlio era gay. Il padre ha visto il video, ha letto la lettera e ha chiamato questo ragazzo, che quindi saluto io mi sono commosso questa moltissimo. Questa è ancora più bella di tutte le altre belle notizie che ho dato io prima, eh? No, vabbè, però questa è anche più, diciamo, è riferita è un po' personale. A me, a questo ragazzo e alla sua famiglia, però insomma. Perché ricordiamo che tu hai fatto questa lettera e poi hai fatto il video sulla la marmellata e la Nutella. Ci si innamora di chi ci si innamora. Esatto. Pochi giorni dopo tutto è nato il suicidio di questo ragazzo di 21 anni. Simone che ha la Pantanella si è ucciso, diciamo, per una questione di omofobia. Ha lasciato anche dei biglietti in cui spiegava che era per questione di omofobia. In realtà la mia lettera, al di là del mio coming out, sì. Che è molto poco interessante, è nei confronti, diciamo, di come relazionarsi alla questione dell'omosessualità. E, insomma, non è una mia lettera, comprende anche il mio coming out. È sicuramente un tema di questo 2013 che in questa chiave è positiva. Per esempio, il blog Le cose cambiano è pieno di storie come questa belle che si possono raccontare. Anzi, il video è questa è la chiave, la chiave. Anche il video, per quello anche che mi piace raccontarla qui questa cosa, perché in qualche modo nasce qui. Nasce qua, perché certo. Il giorno dopo la lettera tu, Alessio, chiamasti quelli delle cose cambiano, loro erano con noi in diretta e loro hanno mi chiesero di fare un video, ovviamente io dissi di sì e poi è avvenuto quello che è avvenuto. Quindi ringrazio anche te, Alessio. 800 24 00 24, sentiamo i titoli di Sky TG24. Michael Schumacher in gravi condizioni all'ospedale di Grenoble. La magistratura francese apre un'inchiesta. Il sisma nel Sannio che ha spaventato gli abitanti. I danni sono limitati. Alfano soddisfatto per la macchina dei soccorsi. Napolitano ha emanato i due decreti che hanno sostituito il tradizionale mille proroghe. Le norme da stasera in Gazzetta Ufficiale. Piazza Affari archivia un 2013 in positivo, la borsa di Milano è cresciuta del 16,5% e vale quasi quanto un terzo del PIL. Piccoli segnali di uscita dalla crisi, cresce la fiducia delle imprese ai massimi da luglio del 2012. 40 ribelli uccisi in Congo, Letta si dice vicino alle famiglie italiane bloccate nel paese, confida in una soluzione rapida. La Russia sotto attacco terroristico, due attentati kamikaze in due giorni a Volgograd, oltre 30 le vittime. Sobrietà per il San Silvestro 2013, due italiani su tre festeggeranno in casa, spesa media per il veglione 66 euro. Purtroppo per me, per 23 anni, ho scontato il Presidente della Repubblica. Io non lo farò mai più, ve lo giuro. Quest'anno io accendo la televisione, lo metto sul muto e mi giro così. Non tiro giù le braghe perché sennò sarebbe un affronto rispetto. Però io vado avanti a cucinare le lenticchie e il potechino e quando avrà finito lo mangio l'ultima fetta del potechino con le lenticchie e dico buongiorno e buonanotte. Il signor Renzi va dal gabinetto, gli fanno il paginone. Renzi ha fatto 4 etti di cacca. Paginone. Io ho gli insegnamenti della vita, li accetto da tutti, ma esige una cosa, che un giorno nella vita questo abbia lavorato. Renzi una volta nella vita non ha mai lavorato e deve insegnarci come gestire il paese. Questo era Calderoli alla festa della Lega di Bergamo. L'hai sentito prima contro Napolitano e poi su Renzi. E su Renzi. Beh, la battuta quando Renzi va al gabinetto fanno il paginone è anche divertente. Da autore, sì, diciamo, di comici, invece la chiusa della battuta è meno bene. Nel senso che finché tu dici quando va al gabinetto fanno il paginone va bene. Sì. Quattro etti di cacca, diciamo, come immagine, non è il massimo. Ecco. Cioè, l'intuizione c'era, poi però chiaramente, non essendo Calderoli perché, un autore vero, esatto, ma cioè, anche perché inizia a chiederti quattro etti, sarà poco, sarà tanto, sta bene, sta male. Basta, fermiamoci qua. Hai sentito la Lega, che ringraziamo anche perché ci dà sempre degli argomenti, ora a parte gli scherzi, però c'è anche questa capacità della Lega di dare un po' l'agenda. Adesso siamo al ridosso del discorso del capo dello Stato napoletano, nella melassa generale del fatto che si ascolta o non si ascolta, si fa finta di nulla, però con riverenza, la Lega irriverente dice certo, io non ascolterò, eccetera. Poi sappiamo che ci sarà anche Grillo. Beh, direi che di irriverenti farà... nei confronti del capo dello Stato, ce ne sono tanti. Sarà che forse il capo della Stato oltre i 7 anni poi diventa malsopportabile. Stufa. Avevano calcolato forse bene i nostri padri costituenti questi 7 anni. Sentiamo un altro pezzettino, che c'è? Salvini. Nel 2014, non so in Italia, ma nelle 3 regioni che governa la Lega non c'è più spazio per un solo immigrato, clandestino o regolare che sia. Non c'è più spazio per un solo cittadino straniero. E faremo di tutto con i nostri governatori e i nostri sindaci perché i contributi pubblici vadano solo a chi risiede da più tempo nelle nostre terre. Non per egoismo, ma per autodifesa. 800 24 00 24, e voi da che parte state? Dalla parte del capo dello Stato o da quello per esempio della Lega? Poi domani ci sarà il controdiscorso di Grillo, che come tradizione farà il suo controdiscorso, poi noi lo seguiremo naturalmente, quello di Napolitano, staremo a vedere. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. E allora 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi. Se volete interagire con noi in tempo reale ci trovate anche su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi e il mio chiocciola Carlo Gabardini, la tweet star Carlo Gabardini. Adesso voglio riportare gli ascoltatori, anche scusa, te, solo Carlo. Una cosa, sì? Ma in realtà noi speriamo che ci chiamino anche per darci la loro buona notizia, giusto? Sì, sì, perfetto, sì. Perfetto. La buona notizia del 2013 che ci portiamo nel 2014, così come viatico, un qualcosa di buono che è accaduto in questo anno ce lo possiamo portare nel 2014. Una cosa di buono che forse è accaduta nel 2013 è che abbiamo preso coscienza, ancora forse con più forza che in passato, della questione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. È un argomento di cui abbiamo molto parlato, se ne è appunto riparlato dopo che sono state rese pubbliche le dichiarazioni del pentito Schiavone, ma insomma c'erano intere pagine e libri forse di dichiarazioni di, e documenti della commissione, rifiuti eccetera. Però a questo giro sembra che si sia presa una consapevolezza maggiore di quello che è accaduto nella Terra dei Fuochi. Noi vogliamo parlarne con Angelo Ferrillo del blog della Terra dei Fuochi. Buonasera Angelo. Buonasera a voi. Buonasera. Perché ci piaceva alla fine dell'anno, dopo che si erano di nuovo spenti i riflettori su questo argomento, tornare a parlarne per capire se davvero possiamo prenderlo come una buona notizia, il fatto che questa volta tutti i politici, di nuovo ministri, è venuto anche Renzi lì da voi, ci sono di nuovo dei piani per intervenire, per fare, e a questo punto ti chiedo se davvero secondo te, Angelo, che da anni, da quanti anni con questo blog denunci quello che è accaduto nella Terra dei Fuochi intanto? Sono diciamo ormai quasi 8 anni, il blog è stato creato un po' dopo, ma diciamo, l'impegno è decennale. Avete fatto anche una manifestazione, ce ne sia stata più d'una anzi da quelle parti, manifestazioni importanti, c'è questa presa d'atto oppure secondo te adesso che è passato il clamore si torna come prima? Certo, la presa d'atto c'è da parte soprattutto della popolazione che è ormai pienamente consapevole di quello che stava succedendo da anni alle spalle della maggioranza, dei cittadini, in quanto questi fatti non sono un po' come il segreto di Pulcinella, nel senso tutti che sapevano. Tutti sapevano, erano fatti noti, ma principalmente agli addetti ai lavori, mentre oggi sono di dominio pubblico anche, diciamo, modestamente grazie alla nostra attività, l'attività di quanti hanno contribuito anche singolarmente o comunque a livello associativo a impegnarsi in questi anni a far sì che l'opinione pubblica conoscesse sempre di più. Tutto ciò in dispetto di quanto avrebbero dovuto fare invece le istituzioni. Qui un po' in Italia un po' funziona all'incontrario, i cittadini singoli o con le associazioni si organizzano per allarmare, per informare l'opinione pubblica. È la politica e le istituzioni che dovrebbero fare questo per compito, per obbligo, per dovere, invece non l'hanno fatto. Quindi di positivo sicuramente c'è tutto ciò, di negativo c'è che comunque si continua a navigare a vista. Le risposte istituzionali dalla politica sono assolutamente inadeguate, lontane dalla realtà, tant'è che i rughi continuano, tant'è che i problemi non vengono assolutamente affrontati così come ci aspettiamo anche noi. Per esempio questo decreto partorito a dicembre è un decreto che è stato calato dall'alto senza decidere e consultare i cittadini che da anni denunciano questi problemi in nessun modo. Che cosa prevede questo decreto, Angelo, e perché secondo te invece non è abbastanza? Assolutamente, innanzitutto vediamo l'inasprimento delle pene, sì, ma di cosa stiamo parlando? Si prevede l'arresto per chi incendia i rifiuti, scusate, ma perché prima non era un reato incendiare rifiuti speciali o fare un traffico di, cioè, di materiali? Sì. Anche questo è vero, perché spesso si accende subito la miccia e si punta alla repressione, a parte che il reato per esempio di sversamento illecito, non so come si dice, di interramento dei rifiuti è già stato commesso alle nostre spalle, quindi su quello è inutile inasprire le pene. Sul fatto dei roghi credo anch'io che fosse già un reato, si inaspriscono un po' le pene, anche perché soprattutto inasprire le pene in termini, perché un po' una contraddizione in termini, perché se noi consideriamo che nel codice penale già è previsto l'incendio doloso come normativa che prevede delle pene anche severe, non si capisce perché la giustizia debba interpretare la norma a favore dei criminali e c'è bisogno di una norma straordinaria per poter poi incriminare, arrestare persone che comunque attentano alla salute pubblica. Ricordiamo che per l'avvelenamento di derrate alimentari, sì, e l'avvelenamento anche diciamo di acque destinate alla, non all'agricoltura ma alla, distribuzione pubblica, già sono previste pene severissime. Allora di cosa si sta discutendo? Cioè che tipo di normative si stanno mettendo in atto? Noi abbiamo l'impressione che queste normative non siano altro che altro fumo negli occhi per dare l'impressione alla gente che si sta facendo qualcosa, quando in realtà se si volesse fare qualcosa di concreto già ci sarebbero gli strumenti per farlo subito. Esatto. A questo proposito, Angelo, un'altra cosa che è prevista dal decreto di cui il governo, il ministro Orlando hanno subito parlato, cioè fare una mappatura, si è detto questo, no? Delle zone dove ci sono rifiuti interrati, rifiuti velenosi, eccetera. Però qualcuno, anche due giorni fa, l'europarlamentare Rivellini ha detto: ma queste cose si sanno, e forse voi stessi lo dite da tempo, si sanno da anni, ci sono già le mappature, quindi bisogna intervenire, non fare altre mappature. Esatto, esatto. Ma poi anche sulle mappature, questa è un'altra cosa veramente che lascia un po' l'amaro in bocca e fa sorridere, se non ci fosse veramente, non considerando che qui ci sarebbe veramente da piangere, nel senso che volete mappare? Se ogni intervento dei vigili del fuoco, per i quali voi vantate questi dati, prevede il centrimento del luogo dell'incendio, il tipo di rifiuto trovato, e questo verbale redatto dal caposquadra dei vigili del fuoco arriva automaticamente alla procura, alla prefettura e all'ASL. Quindi già si sanno, per esempio nell'ultimo anno si è parlato di 6.000 incendi, dati ufficiali del prefetto Cafagna, già si conoscerebbero diciamo perfettamente questi 6.000 punti, perché in ogni luogo oggetto di incendio e di successivo intervento da parte dell'autorità preposta è prevista l'identificazione del posto con coordinate geografiche, indirizzi, numeri civici, tipologie di rifiuti trovati, combusti o meno, e quindi questi dati già sono agli atti, basterebbe semplicemente rispolverare questi verbali per fare una mappatura precisa dei singoli luoghi. E allora, visto che lo hai citato, il prefetto Donato Cafagna, prefetto governativo ad ACTA per la Terra dei Fuochi, lo salutiamo anche noi perché lo abbiamo in linea. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Senta, noi parliamo molto di questo anche perché a me sembra che questo della Terra dei Fuochi sia un po' un simbolo di tante altre situazioni. Questa forse è la più grave. Nel blog La Terra dei Fuochi Ferrillo scrive il più grande avvelenamento di massa in un paese occidentale, però pochi giorni fa abbiamo visto che forse c'è del cromo sotto la 4 qua in Lombardia, ci sono discariche illecite, illegali in tutta Italia, e quindi bisogna davvero affrontarlo e risolverlo questo problema se non vogliamo avvelenarci tutti. Prefetto, lei da quanto tempo è commissario su questa emergenza? Io non sono commissario, cioè, scusi, io sono un viceprefetto da un anno sul territorio della Campania con un incarico specifico. Quale? Cioè quello di supportare il territorio, le istituzioni, le prefetture, le forze dell'ordine e creare un raccordo istituzionale per rafforzare l'attività di contrasto agli incendi di rifiuti in Campania. Quindi sulla tema degli incendi in particolare. Un tema specifico, quello degli incendi di rifiuti, ma è evidente che affrontare gli incendi di rifiuti in Campania vuol dire trovarsi poi a scontrarsi con una tematica che è molto più ampia. Da quanto tempo è a questo incarico per contrastare? Sono da dicembre dello scorso anno. E in questo anno, visto che è passato un anno, possiamo fare buon anno doppio, dice Carlo Gabardini. Che cosa può portare a suo favore e soprattutto a favore dei cittadini di quella zona? Questi incendi sono diminuiti, sono stati messi sotto controllo? Quello degli incendi e più in generale a monte, quello dell'abbandono dei rifiuti, rifiuti di vario genere, rifiuti speciali, quelli che rinvengono dalla filiera delle attività produttive illegali che sono presenti sullo stesso territorio, rifiuti che in passato sono arrivati fuori dal territorio campano e sono stati tombati, rifiuti che in alcuni casi sono solidi urbani, ha sfaccettature diverse. Ci sono centinaia di inneschi, di roghi, di rifiuti presenti sul territorio, perché ogni abbandono di rifiuti costituisce un potenziale innesco di incendi. Allora la mia attività in maniera molto semplice e diretta è stata orientata a fare due cose: a rafforzare l'attività di controllo del territorio, ma non genericamente, andando a colpire le attività economiche illegali, cioè quelle che, producendo illegalmente merce contraffatta in violazione e in elusione fiscale, smaltiscono naturalmente e illegalmente il rifiuto che è prodotto. E dall'altra parte intervenire con misure di sostegno agli enti locali che si trovano a dover gestire un territorio che è in più parti colpito. Ma come glielo date questo sostegno, prefetto? Come il sostegno? Sono riuscito a forzare sulla Regione Campania ottenendo delle risorse per fare due cose: incentivare l'attività di videosorveglianza sul territorio, quindi andare a individuare i siti dove ci sono gli abbandoni e fare della videosorveglianza. Ma quindi adesso ci sono delle telecamere? Telecamere, dove? Ma anche riqualificare queste aree. Perché? Perché l'abbandono di rifiuti è spesso in coincidenza con abbandono di aree del territorio, aree che non sono amministrate, non sono governate dall'ente locale e quindi si prestano a diventare ricettacolo di rifiuti. Però mi scusi, stiamo cercando di riqualificarle e recuperarle queste aree. Ma mi sembra, ci sembra di aver... Aspetti che Carlo Gabardini le vuol fare una domanda. Sì, e coinvolgo anche Angelo Ferrido in realtà. Sentire Angelo Ferrido, ci sembra di aver capito che il problema non è identificare in quali punti avvengono questi incendi, perché questa cosa qua la si sa, è interrompere questi incendi, non continuare a chiedersi dove sono questi incendi. Sentiamo aspetti che, guardi, prefetto, aspetti un attimo, che diamo la parola anche a Angelo Ferrido. Dopo che la spiega meglio. Così vediamo se vuol farle una domanda o se vuol commentare quello che ha appena detto il prefetto. Ferrillo. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza, individuiamo tre punti ben distinti. Il problema dei rifiuti interrati, che voi avete citato egregiamente esserci anche al nord, per esempio gli ultimi fatti di cronaca ci dicono che sotto l'autostrada sono stati sversati, eccetera, eccetera, quello è un problema a sé stante, è un problema che risale agli anni passati, ovvero l'interramento di grandi quantità di rifiuti industriali da parte dei clan in territori che abbiamo appunto scoperto essere su tutto il territorio nazionale. Questo è un problema e si chiamano rifiuti interrati. Il problema dei roghi tossici è un problema che riguarda la terra dei fuochi in particolare e non coinvolge i grossi quantitativi industriali, ma quelli del piccolo settore produttivo, ovvero del manifatturiero e della piccola e media impresa. Quindi sono due problemi distinti, da non confondersi con l'abbandono dei rifiuti tal quali o dei rifiuti urbani a cui faceva riferimento il prefetto, altrimenti si genera un po' di caos e di confusione anche nell'opinione pubblica. Noi riconosciamo che c'è una parte di inciviltà assolutamente sul territorio, questo lo dobbiamo dire, altrimenti faremo demagogia, ma il problema che noi andiamo a affrontare con i rifiuti speciali bruciati, ovvero la terra dei fuochi, è un problema che riguarda non i rifiuti interrati e né il sacchetto abbandonato incivilmente. Qua stiamo parlando di un intero settore produttivo, che sia di piccola e media impresa, che fa scarti di lavorazione che sono altamente tossici se bruciati, che smaltisce illegalmente in regime di evasione fiscale a danno della salute pubblica. E i dati diffusi dal prefetto Cafagna purtroppo fanno riferimento a dati ufficiali, sono certamente dei dati veri, però non sono attendibili. Perché? Perché se noi consideriamo che la maggioranza di questi roghi, da quando c'è stata l'attenzione dell'opinione pubblica, ha visto questi criminali migrare la loro attività incendiaria nelle ore notturne, cosa succede? Cosa succede? Che stanno incendiando maggiormente nella notte, quando chi denuncia, il cittadino che chiama i vigili del fuoco, non riuscendo ad individuare geograficamente dove c'è la colonna di fumo, non riesce a dare un'indicazione di massima o specifica alla 115 dove poter intervenire. Per cui la segnalazione non va a buon fine, perché molte volte la pattuglia non esce proprio, perché i vigili del fuoco dicono: guardate, noi non possiamo mandare una macchina. Questa è una questione specifica, adesso gliela chiediamo al prefetto Cafagna. Prima però facciamo una pausa per la borsa, torniamo subito dopo. 800 24 00 24 a parlare della terra dei fuochi. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare, fare. Siccome mi pare di capire sia da quello che dice Angelo Ferrillo, blog della Terra dei Fuochi, sia da quello che dice lo stesso prefetto governativo per la Terra dei Fuochi, Donato Cafagna, che il problema, per esempio, dei roghi, dei rifiuti tossici, non è ancora risolto. Io, prefetto, le chiedo, visto che è un anno che dal suo insediamento, visto che il problema è vasto, ma che non si è ancora risolto, lei, non so, farà una relazione a fine anno da inviare al governo. Cosa chiederà o chiederebbe al governo per cambiare questa situazione? Cioè, come bisogna intervenire, secondo lei, che è un anno che sta lavorando su questo? Ci vuole l'esercito? Ci vuole... che cosa ci vuole? Guardi, questo è un fenomeno che ha oramai, come diceva prima il blogger Ferrillo, a carattere endemico, e quindi non si può pensare di trasformare un fenomeno che nel tempo e negli ultimi anni ha provocato migliaia di incendi, portarlo a zero. Cioè, dobbiamo abituarci ai roghi tossici. Questo non è possibile. Dobbiamo abituarci ai roghi tossici, quindi, scusi, dobbiamo abituarci? Quello che No. Allora. Tanto che sono stati messi in campo delle iniziative forti, sono state migliaia i pattugliamenti, migliaia i fermi. Sì, ma lei stesso ha detto che il problema non è risolto, però, prefetto. Il problema non è risolto, abbiamo avuto una riduzione per quanto riguarda gli interventi segnalati dai vigili del fuoco. Cioè, ma sono stati 6.000 gli incendi quest'anno? Del 40%. Meno 40%? Meno 40%. Quindi erano 10.000. Interventi dei vigili del fuoco. 18. Interventi dei vigili del fuoco. Aspetti un attimo, che Ferrillo forse vuol dire qualcosa. Ferrillo? No, però se mi fa completare, altrimenti io non riesco mai a completare. Sì, però velocemente, prefetto, perché la domanda è questa: cosa chiede lei al governo per risolvere questa questione? 40% su Napoli, sì, e del 25% su Caserta. Quindi ci sono stati migliaia di interventi. Con il decreto legge sono previste due cose importanti rispetto ai roghi, perché poi tutto il resto riguarda la perimetrazione per l'inquinamento. Rispetto ai roghi è prevista la norma incriminatrice speciale, specifica per l'incendio di rifiuti, che è importante perché con l'incendio doloso c'erano numerose fattispecie che non venivano considerate. Quindi, insomma, lei pensa che sarà il decreto a risolvere il problema? Quindi, no, non lo risolve, l'aiuta. Sì? Stiamo già incidendo, le ho detto, c'è stato un calo del 40%. Sì, abbiamo capito. La domanda però, prefetto, è che cosa manca per risolvere il problema secondo lei? Lei mi parlava dell'esercito, il decreto legge prevede un'implementazione delle forze sul territorio, proprio prevedendo la possibilità per i prefetti di richiedere l'intervento dell'esercito, perché è evidente, qua noi parliamo di un'area che è di decine di migliaia di chilometri quadrati sulle quali avvengono i rubi. Va bene. Quindi l'esercito potrebbe essere un alleato in questa lotta. Il decreto avrà degli effetti secondo lei? Staremo a vedere. Grazie al prefetto. Io vorrei chiedere a Ferrillo di chiudere, Angelo Ferrillo, sì. Mettendoci sopra un auspicio, una convinzione, una speranza, una certezza, insomma, su quello che si sta facendo. È venuto anche Renzi qualche giorno fa lì da voi. Sì, ma si continua a parlare di cambiamento, però si continua a ragionare con la vecchia mentalità. Renzi è venuto ascoltando una parte del territorio, le associazioni che magari sono più vicine, più diciamo compiacenti, tra virgolette, non ha ascoltato tutti gli attori. Noi abbiamo la primogenitura nella battaglia, perché siamo gli unici e i primi che abbiamo posto questa questione come battaglia sociale, e non siamo assolutamente stati ricevuti da Renzi, pur avendo cercato il contatto con la segreteria regionale, in particolare con i suoi collaboratori Francesco Nicodemo, Pina Picirne e via discorrendo. Noi diciamo proprio questi, i dati del prefetto sono numeri che effettivamente sono reali, però come dicevo prima sono numeri che fanno riferimento agli incendi diurni. Provi a venire il prefetto qui la notte e a girare sulle strade di notte per vedere che cosa ma sarà venuto anche di notte, no? Cioè, il 40% che lui dichiara durante il giorno si è spostato durante la notte, quindi abbiamo avuto un più 40% di incendi durante la notte, che appunto non escono da questi dati perché non sono assolutamente censiti. Le ho detto, se prima se si chiama i vigili del fuoco e non si si riesce a indicare perché bruciano alle 2, alle 3 di notte, si sente solo la puzza, non si riesce a capire da dove viene, non esce nessuna pattuglia. E secondo te, Angelo, invece a questo punto, visto che c'è stato anche il lavoro del prefetto, che però dal tuo punto di vista non ha portato dei risultati, cosa bisognerebbe fare? Come bisognerebbe coinvolgere la cittadinanza, perché noi abbiamo degli indirizzi da dare molto concreti. Ma cosa vuol dire coinvolgere la cittadinanza? Innanzitutto nel decreto non è previsto assolutamente il coinvolgimento della Guardia di Finanza, l'azione repressiva da sola non serve, bisogna come dire, mettere a norma tutto un settore industriale che continuerà a smaltire a nero, non si fermerà con i semplici arresti, perché innanzitutto gli arresti sono pochissimi, si parla di 2 arresti dall'inizio dell'anno, 2-3 arresti, adesso non so quanto di preciso, ma si contano sulle dita di una mano, e poi comunque ci sarà sempre chi per ragioni economiche sarà disposto a farlo al posto di altri. Quindi il problema qual è? È quello di rimettere in sesto un settore, diciamo, economico produttivo, anche agricolo, dove si bruciano plastiche di serre, plastiche di seminerie, e soprattutto la questione dei campi rom. Noi ricordiamo questo senza fare nessun discorso, diciamo, discriminatorio o razzista, ma è un dato di fatto: nella maggioranza dei campi rom, e ne sono tanti nella provincia di Napoli e Caserta, si bruciano rifiuti speciali dalla mattina alla sera, e allora non si capisce. Sì, ma mi sembra che si brucino dappertutto adesso. Che cosa c'entra il momento dei campi rom? Si bruciano dappertutto, e mi sembra che il problema sia cercare di bloccare questa cosa. C'è una questione nella questione che appunto non è affrontata, cioè gli incendi continuano nonostante il decreto. Noi ricordiamo che il decreto è in vigore. Vabbè, questo l'abbiamo capito. C'era il prefetto al telefono, c'era da approfittarne forse per fargli delle domande specifiche, dove gli dicevi quello che serviva fare, giusto? Certo, non so se è andato via, comunque spero che sia. Se non gliele fai le domande. Le domande le abbiamo fatte al prefetto, e il prefetto parla da prefettese, e più di tanto non abbiamo tirato fuori. Io ringrazio sia Angelo Ferrillo che il prefetto Cafagna. Naturalmente speriamo che si riesca a intervenire. Io insisto, grazie, auguri a tutti e due. Auguri. Io insisto sul fatto che questa questione qua, che a molti può sembrare una cosa angusta, solo della Campania, legata a dei comportamenti specifici della gente del posto, è in realtà un problema nazionale. Assolutamente. E quindi bisogna cercare di capirlo, affrontarlo, e speriamo anche risolverlo. Perché, ripeto, le recenti dichiarazioni dell'ARPA, credo che fosse Bergamo, non ricordo esattamente, che dicono ci sono scorie di tracce di cromo sotto l'autostrada A4, insomma, fanno impressione. 800 24 00 24, andiamo agli ascoltatori e sentiamo Orfeo che ci chiama da Verona. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Prego. Allora, io volevo dire che non solo nella terra dei fuochi, come ha detto giustamente lei, al nord ci sono quasi discariche a cielo aperto, soprattutto nei comuni dove si classificano come, cioè, nel senso che ci sono pochi rifiuti pro capite, però ci sono i fossi vicino alle strade che sono pieni di sacchetti di rifiuti, uno. Ci sono discariche di rifiuti, cioè, sotterrati, dove sono morti, e c'è una discarica in provincia di Verona, a nord di Verona, a Pescantina, che è stata sequestrata. Non lo sentiamo più, Orfeo, vediamo se riusciamo a recuperarlo magari più avanti. Rodolfo dalla provincia di Lucca, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire sulla questione di Napoli, anche sì, sulla provincia di Lucca, però io sono sconcertato da come la politica e le decisioni della politica intervengono su dei problemi gravissimi. Ha ragione. E prendono sempre tempo e mandano persone, commissari, commissari la spazzatura, solo per prendere tempo. Purtroppo non devo dire che l'intervista al prefetto Cafagna da questo punto di vista è stata un po' sconcertante. Ho fatto il reso conto, il prefetto Cafagna di cosa? In un anno? Cosa ha fatto? Ma con tutto rispetto, per l'amor di Dio, al prefetto Cafagna, il suo ruolo, però a cosa è servito a risolvere il problema? Un anno? Stiamo parlando di un anno. Lui dice che sono diminuiti il 40% i roghi, però... però Angelo dice che il 40% sono aumentati di notte. E poi comunque lo stesso prefetto ha detto che la strada è ancora lunga. Può darsi che le regole di ingaggio di questo prefetto fossero tali da non dargli più potere. Però a quel punto non ne prende atto e non lo fa il prefetto, si dimette, dice. Non mi avete dato poteri sufficienti. Se i poteri c'erano non sono stati usati bene. Esatto. Però sono d'accordo con lei che l'immagine che ne ricaviamo è un po' sconcertante. È un prefetto diurno, a sentire Angelo lui è prefetto diurno, servirebbe anche un prefetto notturno, perché se tutto questo è servito solamente per spostare gli incendi di notte invece che di giorno mi sembra un po' poco. Esatto. Rodolfo, vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, sì. No, infatti volevo dire, uno a un certo punto dopo un anno dice: guardate signori, che qui io non servo a niente, io non sono in grado di poterlo risolvere questa cosa, qui bisogna rimettere tutto e partire, come dice il blogger Fiorillo, soprattutto dai contatti con la popolazione, solo da lì si risolve il problema. Va bene, va bene. Coinvolgendo la gente. Grazie, grazie. Luca dalla provincia di Bergamo, buonasera. Sì, buonasera a voi. Niente, solo un piccolo incipit sull'articolo precedente di Calderoli e la festa della Lega. Premetto velocemente, sono ex militante e sono uscito per vari motivi. Ecco, al di là delle parole colorite che parlano la pancia di Calderoli, secondo me, però, da come la vedo io, essendo stato anche consigliere comunale, il problema della gestione, diciamo, dell'immigrazione deve fare un passo ulteriore in Italia. Nel senso, al di là della parte ideologica che vede chi pro, chi contro, quello che io vedo e mi spaventa è proprio una difficoltà nella gestione dei comuni, delle risorse. Cioè, cosa si riferisce lei? Qual è il problema concreto? Faccio un esempio pratico così ci capiamo. Ad esempio, quando in parecchi comuni alle persone, diciamo, in difficoltà, soprattutto i migrati, vengono dati delle quote mensili che vanno dai 60 ai 120 euro, chiaramente che servono per il primo soccorso, da mangiare, pagarsi le bollette. Ma scusi, dove? In che città vengono consegnati dei soldi agli stranieri che hanno bisogno? No, città, nei paesi, non città, io sto parlando della Val Seriana. Ma lui ha fatto anche il consigliere comunale, magari fa riferimento anche a esperienze. Sono molto curioso. Ma la mia esperienza, secondo me, non è una polemica, sto solo. Ma nemmeno la mia, le chiedo scusa, volevo capire di che cosa stavamo parlando, se era di un sussidio, questo stavamo parlando. Un sussidio, chiamiamolo un sussidio, un aiuto, chiamiamolo come lo vogliamo, che serve soprattutto per un primo aiuto, capire? Perché non è che è una persona che è qui, che magari. Ma dove sta il problema, Luca? Venga al problema. No, il problema è proprio quello che al di là delle parole Calderoli, però il problema è reale, cioè la gestione dell'immigrazione. Ma scusi, ma Calderoli cosa ha detto? Noi abbiamo citato Calderoli che prendeva in giro Salvini, Napolitano. Sta parlando di Salvini sugli immigrati. Ecco, non c'è bene. Cioè lei dice basta dare sussidi agli immigrati, non possiamo farli entrare, eccetera, eccetera. Cioè la classica linea della Lega. Va bene, grazie Luca. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare, si può fare, si può tenere un lasciare. Si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24. Luca c'è ancora? No, l'abbiamo fatto andare via? È caduto, no, perché lui ha detto che era andato via dalla Lega, non si sa se era un po' in polemica, ma volevo capire realtà, come mai fosse uscito dalla Lega, ma magari richiama. In realtà poi era lì che diceva che, insomma, che la Lega su questo ha ragione, può darsi, no, ma noi siamo qui per ma forse perché si è scambiato Salvini con Calderoli, per quello che è uscito dalla Lega, perché se non mi riconosceva mi piaceva problema. Di più la cosa di Calderoli sul capo dello Stato perché è più attuale, insomma, però naturalmente la polemica sugli aiuti agli immigrati e sul fatto che bisogna fermare i flussi, questa è sempre di attualità. Antonio dalla provincia di Siracusa, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Auguri per l'anno che sta per venire. Grazie anche a lei. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso del capo dello Stato e il controdiscorso che ogni anno fa Peppe Grillo. Sì. Qual è il problema? La tesi di Grillo, sì, vabbè, ridurre le spese per i parlamentari. Lui dice che costano troppo, anche se la politica costa troppo. Non dice che la politica costa troppo, dice che i deputati guadagnano troppo. Beh, dice anche che la politica costa troppo, direi. Certo, perché un manifesto, se tu sei candidato alla Camera, scusa se ti do del tuo così. No, ci mancherebbe. Perché costa, non so, 1500 euro a settimana, 6 metri per 4 metri, quei grandi giganti che vedi. Sì, ma vabbè, ma il discorso che stava dicendo la posizione di Grillo è che secondo lui la politica costa troppo. Poi sì, ma non è quello che risolve il problema. La politica costa troppo. Il problema d'Italia non è tanto il costo dei parlamentari, ma la spesa pubblica che costa troppo. Per esempio, metà del bilancio dello Stato può finire tutto nella sanità, metà del bilancio. Va bene, Antonio. Grazie anche a lei. Il problema della spesa pubblica. A parte che non è che la metà va nella sanità, e comunque la spesa pubblica fa parte, anche la spesa dei politici fa parte della spesa pubblica, e soprattutto la spesa dei politici è un conto, quella della sanità. Soprattutto è un segnale importante da dare ai cittadini nel momento nel quale bisogna far sacrifici, è stato detto più volte, ma è vero. Anche se il costo, diciamo, della cosiddetta casta non è quello che incide sul bilancio, però è un segnale da dare. Io però vorrei anche all'800 24 00 24 che si parlasse della bella notizia che noi ci portiamo dal 2013 al 2014. Un segnale per l'anno prossimo. Abbiamo fatto alcuni esempi. Gabardini, tu nel frattempo hai messo a punto qualche ipotesi di bella notizia. Ma hai detto che la mia bella notizia era la più bella di tutte le tue. Qualcos'altro che non ti riguarda. Per esempio, una cosa bella potrebbe essere le curve degli stadi chiuse contro il razzismo. È una cosa che fa discutere. Alcuni dicono che non serve a nulla, è una pagliacciata. Altri potrebbero pensare invece che è un segnale concreto. Perché no? Sì, io non devo dire quello che penso io sulle curve. No, non dico niente. Chissà se una bella notizia potrebbe essere anche l'ennesima ordinanza antiprostituzione. Salutiamo il sindaco di Gioia del Colle, Sergio Povia. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Salve. Allora, di ordinanze per cercare di mettere un freno, di controllare, di limitare la prostituzione, ne abbiamo sentite tante. La sua però, almeno per come hanno titolato i giornali, è piuttosto originale. Vietato anche l'occhiolino. Guardi, il fenomeno della prostituzione è troppo complesso per ridurlo, diciamo, anche ad una battuta anche scherzosa sull'adescamento. Le norme sull'adescamento le deve fare il Parlamento, non le può fare un'ordinanza del sindaco. È del tutto evidente che quando è stata prodotta dall'autorità sanitaria la delibera tipo, l'ordinanza tipo, sì, noi l'abbiamo rivista, l'abbiamo riletta, ne abbiamo anche sfrondato una parte. L'ordinanza tipo prodotta dall'ASL? Il tema è molto più vasto, ripeto. Sì? Il fatto stesso che le signore battessero in zone con termini alla città, in zone ad alta frequenza di traffico, comunque prevede anche una fortissima, come dire, concentrazione di tasso di pericolosità anche ambientale, di natura anche igienica. Sì, però facciamo un po' d'ordine. Allora, sindaco, prima di tutto, che cosa prevede l'ordinanza che avete emanato voi? L'ordinanza, abbiamo emanato un'ordinanza nella quale, in buona sostanza, una volta per tutte si evita di girare la testa dall'altra parte quando si nota questo fenomeno che è diffusissimo. Abbiamo deciso di impedire che queste cose avvengano, diciamo, in maniera plateale. Ma come? Sulle strade e praticamente ordinando, facendo un'ordinanza vietando la prostituzione. È del tutto evidente che sotto questo aspetto quello che possiamo fare noi è quello di impedire che avvenga in maniera conclamata e plateale, insomma. Poi è evidente che le norme che sovrintendono al reato di prostituzione, comunque di sfruttamento della prostituzione, attengono al codice penale e non riguardano noi. Noi abbiamo semplicemente soprattutto non è un reato la prostituzione. Assolutamente, se non è chiaro lo sfruttamento. Quindi, il problema... Infatti tutte queste ordinanze sono molto fantasiose, perché bisogna aggirare il fatto in sé. Però scusi, lei dice che è molto più generale quello che avete fatto voi, però c'è il discorso del saluto allusivo nella sua ordinanza? In linea di principio esiste un obbligo che deve essere fatto rispettare dalle forze dell'ordine, nel caso specifico nostro dai vigili urbani, ma in ogni caso carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, voglio dire, e anche guardia forestale. Qualche termine bisogna, come dire, mettere. Noi l'abbiamo mandata anche per conoscenza al prefetto perché la vistasse, la verificasse. E l'ha vistata il prefetto? Gli è piaciuta al prefetto? Sì. Mi sia piaciuta, non ci siamo però sentiti, scusi, questa cosa del saluto allusivo, cosa vuol dire? Cioè, come si fa a distinguere un saluto allusivo da un saluto normale? Lei ha mai incrociato una signora di quelle estremamente scollacciata che a un certo punto platealizza l'offerta di sia che mette a disposizione? Quello credo che sia un profilo di allusività al quale non si può far finta di non vedere, insomma. Però non ha nulla a che vedere col saluto allusivo. Quello è essere scollacciati, come diceva. Cioè, se c'è una signora scollacciata all'angolo della strada che offre la sua mercanzia, non c'entra nulla il saluto allusivo. Quello si vedeva già, si capiva già. Vuol dire, il saluto allusivo è quello che una signora ti fa quando tenta di attirare la tua attenzione, oltretutto su strade anche ad alta densità di circolazione. Ma lei spera che questa ordinanza abbia un effetto, cioè che avendo vietato il saluto allusivo le prostitute su strada smettano di fare l'occhiolino? Guardi, il tema, noi non abbiamo vietato il saluto allusivo, noi stiamo tentando di far capire, a parte il fatto che poi non l'ho fatta soltanto io, molti comuni del circondario l'hanno fatta, in Puglia l'hanno fatta diversi comuni. Poi noi abbiamo avuto un incontro con la comunità Giovanni XXIII, quella praticamente fondata da Don Oreste Benzi, e quando abbiamo nel nostro circuito messo a valore le esperienze di due ex prostitute che oggi intervengono in quella comunità per evitare che altre facciano la loro fine, abbiamo pensato che questo tema fosse un tema da affrontare. Peraltro le devo dire, per qualcuno che magari si è divertito a pensare a un'amministrazione bacchettona, e noi siamo i primi ad aver fatto nel nostro territorio anche l'istituzione dei registri delle unioni civili, per cui non è questo il tema. Io vorrei che in questo senso si aprisse un dibattito serio su cos'è la prostituzione, su come è possibile affrontarla, così come hanno fatto molte realtà locali, all'estero soprattutto, e dove è possibile che evidentemente esista anche un profilo di tutela, di controllo anche eventualmente delle profilassi, della sicurezza in senso più generale. Quindi in linea di principio potrebbe sembrare anche un profilo provocatorio, ma non è l'occhiolino che può essere fatto l'elemento sul quale... No, perché sembrava invece un po' quello, no? Un po' una cosa o per dare un messaggio, per essere provocatorio, per far discutere, cose che abbiamo sentito mille volte, ma che però poi stringendo in concreto servono a poco, perché ripeto, vietare l'occhiolino è sembrata più una cosa, più una battuta che altro. Ma soprattutto mi sembra molto bello che sia un problema di linguaggio in realtà, sindaco, come dice lei, cioè che ritrovare le giuste parole, non so, sarà che io faccio lo sceneggiatore, però ho apprezzato moltissimo il fatto che lei dice noi dobbiamo cercare di dire una cosa ma non sappiamo neanche noi esattamente come dirla, e infatti non so, lei ha detto platealizza l'offerta, che mi sembra stupendo dal punto di vista del linguaggio. Come anche le signore che battono, mi piace moltissimo, perché che lei prima signore l'ha detto, però poi signore batte. Però poi l'altra parola non è battono e va bene. Certo, che offrono la propria mercanzia, questo è il fatto negativo. D'altra parte, torno a ripetere, se mi permette una chiosa finale, se possibile. Se in Italia sono censite da 80.000 a 250.000 prostitute, e i dati non sono ufficiali, ma se ognuna di queste signore avesse un solo cliente al giorno, in 6 giorni di lavoro settimanali ci sarebbe 1,5 milioni di persone che frequentano queste signore, per 4 settimane sarebbero 6 milioni di persone, un solo cliente per ogni prostituta, cioè significa che più del 50% degli uomini maturi di attività sessuale evidentemente frequenta. Però non sarebbe meglio prenderne atto e magari metterle a fiscalizzare anche queste attività, come suggeriscono alcuni? Ma è il legislatore che deve intervenire, non il sindaco con la propria ordinanza. Però se lei mi fa un'ordinanza che vieta l'occhiolino, che messaggio ci sta dando? Ma lei l'ordinanza l'ha letta? A tratti, ce l'ho qua sotto gli occhi, è un po' lunga. Guardi, allora, si rende conto che probabilmente l'occhiolino è il tentativo di uno che ha tuttora spinte compulsive a digitare sulla tastiera e sulle social network, perché in realtà noi abbiamo indicato la luna, se quello così si continua a fissare la punta del dito. Va bene, allora adesso facciamo così, la leggiamo meglio, poi la postiamo anche su Facebook di Si può fare e chiediamo agli ascoltatori di commentare se ci siamo sbagliati noi o se si è sbagliato lei. Ci sono dei brani bellissimi, grazie. Ci sono dei brani auguri, stupendi. Auguri. E sono dei brani stupendi di questa comunque. Dopo ce li prepari e ce li leggi. 800 24 00 24, ordinanza di Gioia del Colle. E buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera. 800 24 00 24, siamo sempre in attesa della vostra bella notizia, la più bella notizia del 2013 che vi portate di là nel 2014. Insomma, è stato un anno difficile, c'è la crisi, abbiamo già detto, la politica non ci dà grosse soddisfazioni, però ci sarà qualcosa di bello che ci possiamo portare di là nell'anno prossimo. Intanto tu Carlo, hai dato un'occhiata all'ordinanza del sindaco di Gioia del Colle? Sì, signori, perché ne avevo già letti dei pezzi e mi sembrava divertente. Come diceva lo stesso sindaco, è veramente spesse volte una questione di linguaggio. Quindi non è che stiamo attaccando l'ordinanza, è più il fatto che fa ridere un po'. Usa delle parole e soprattutto non sa cosa vuol dire a volte un'ordinanza per limitare il fenomeno della prostituzione, in cui si parla dell'occhiolino, del saluto allusivo. Sì, perché viene il dubbio che siano solo delle buttate, delle cose messe lì più così. Più che delle buttate, secondo me, è il tentativo di trovare il modo per poter dare una sanzione. Perché, per esempio, è vietato a chiunque in tutto il territorio comunale di Gioia del Colle di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale attività. Cioè, anche se non lo fai, non lo stai facendo, ma è... diventa difficile. Tu vedi una ragazza vestita in maniera succinta e dici che ne so che questa non ha magari l'intenzione, e non puoi parlarci, cioè non la puoi contattare. È il processo alle intenzioni. Esattamente, come per esempio è anche vietato di eseguire alla guida di veicoli manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti, cioè fare le penne col motorino per farsi notare da una prostituta, credo che sia. E diventa molto difficile, diciamo, scindere più che il bene dal male, diciamo, illecito dall'illecito. Però mi sembrava molto giusto quello che diceva, ripeto, forse è un punto di vista da sceneggiatore, però mi sembrava lo stesso sindaco diceva signori, è un problema di linguaggio, nel senso che noi cerchiamo di contrastare il fenomeno, e però poi quando lo devi mettere in un'ordinanza ministeriale, comunale, quello che sia, con linguaggio amministrativo diventa molto difficile. Che altro, punto... fa ridere, e si finisce per far ridere. Esattamente. Titoli di TG3. TG3. Patto di coalizione, priorità del governo Letta, no a dispute tra prime donne, Franceschini, accordo su legge elettorale, riforma del Senato. Napolitano prepara il messaggio di fine anno, richiamo alla necessità di riforme e al disagio sociale, possibile riferimento alla carta delle dimissioni. Il capo dello Stato autorizza il mille proroghe diviso in due decreti per dare omogeneità ai provvedimenti, affitti d'oro, blocco sfratti e misure per Roma. Dopo l'incidente sugli sci, Schumacher in coma, operato al cervello, i medici condizioni gravissime, non sappiamo dire se sopravviverà. Tentativo di colpo di Stato in Congo, assalita la TV di Stato, sparatoria all'aeroporto, paura per le famiglie italiane bloccate, aiutateci a rientrare. Dopo l'attentato di ieri alla stazione Nuova Strage a Volgograd, in Russia, un kamikaze si fa esplodere su un autobus, 15 morti. Protesta degli abitanti della Basilicata colpita dall'alluvione lo scorso ottobre, in crisi soprattutto l'agricoltura, ci sentiamo alluvionati di serie B. Oh, questi erano i titoli del TG3. Oltre alla bella notizia che vogliamo, che vi chiediamo, la più bella notizia del 2013 secondo voi, ammesso che ci sia, vi chiediamo anche i vostri buoni propositi per l'anno prossimo. Giusto, giusto, insomma, alziamo l'asticella. Alziamola. Assolutamente. Vi vogliamo partecipativi, anche perché noi con Si può fare, quello del sabato e della domenica mattina, siamo sempre alle prese con le buone notizie, con i buoni propositi. E quindi se ci enunciate in questa settimana dei buoni propositi, non so, per esempio uno che ha un'azienda vuole assumere qualcuno, noi siamo contenti perché questa è una buona notizia. Una buona notizia. E durante l'anno vi verremo a cercare per verificare se questi buoni propositi li avete messi in pratica. Questa è la parte interessante, cioè se voi chiamate e dite i vostri buoni propositi, poi dopo noi vi inseguiamo, vi incastriamo. Esatto, quindi voi vi autoincastrate, che è uno dei migliori metodi per riuscire a fare le cose. Cioè, esatto, c'è l'amico che ti viene a dire ma l'hai fatto? Avevi e ti detto sta dietro, che smettevi di fumare, per esempio, avevi detto che nel nuovo anno, quindi noi vi chiameremo così all'improvviso un sabato mattina di aprile chiedendo: allora come va? Hai smesso di fumare? Quindi, per esempio, non so, un studente a fine corso fare un'esperienza all'estero senza però parlare di fuga di cervelli, perché non sempre quando uno va all'estero a studiare per 3 mesi è una fuga di cervelli, è un'esperienza positiva, è una vacanza di cervelli quella. Per esempio, 800 24 00 24. Adesso però andiamo a Parma e salutiamo il sindaco Federico Pizzarotti. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, Pizzarotti, intanto è un po' il momento del Movimento 5 Stelle, tutte porcate, la norma sulle slot, gli affitti d'oro, il Salva Roma, avete contribuito a bloccarle, erano tutte porcate queste? Beh, decisamente sì, questo però dà anche un po' l'idea di quali sono o non sono le priorità di un governo che mi sembra che stia andando un po' a caso. In effetti si può governare così, cioè governare, si può fare politica per esempio così? Questa domanda la faccio a voi, che avete avuto un sacco di voti alle ultime elezioni e mettete spesso delle toppe qua e là, almeno per chi è in sintonia con le vostre battaglie, però poi per quanto si tratta di costruire abbiamo visto che è molto più difficile. Cioè, si può far politica solo mettendo delle toppe, Pizzarotti? No, non si dovrebbe, però era, specialmente a livello nazionale, la politica degli ultimi anni ci ha fatto vedere che con questi decreti, dove dentro si annidano norme che non c'entrano niente con il decreto stesso, producono poi questi effetti. Quindi il salva Roma, il mille proroghe, tutti questi decreti dove io sono convinto che non abbiano saputo esattamente neanche cosa stavano votando. Quindi la norma delle slot era annidata dentro a un decreto che parlava di tutt'altro. Perché, l'abbiamo chiesto anche qualche sera fa a Salvini, il neo segretario della Lega Nord, la questione delle slot era sbagliata, quella norma che diciamo disincentivava i comuni che stanno cercando di mettere dei freni alle slot. Perché il fenomeno delle slot machine per lei è un problema oggi in Italia? Ma è un problema perché è statistico che in un momento di grave crisi tante volte chi ha meno si affida al provare la sorte, quindi a spendere per cercare di scommettere o di usare i gratta e vinci, il lotto e quant'altro, per cercare di risolvere la situazione, ma l'effetto in genere è decisamente peggiore perché si va a dilapidare anche il poco che si ha. Il fenomeno delle slot acuisce questo problematica perché va veramente a creare anche una dipendenza di questi giochi. Quindi assolutamente non è il vietare in senso assoluto, sì, ma perché tutte insomma i grandi divieti nell'epoca, nel tempo, non è che hanno prodotto dei grossi risultati, esatto, ma la sensibilizzazione e la non incentivazione soprattutto. Oh, ecco, parola magica, l'incentivo, perché quello che era sbagliato secondo me di quella norma che poi è stata tolta era proprio il concetto di disincentivo. Cioè, un comune che di tasca sua fa lo sconto per esempio alla Tarsu, a una tassa qualunque, a un bar che rinuncia alla slot, cioè rinuncia a dei guadagni per una scelta, comunque la si giudichi una scelta etica, ecco, disincentivare questa cosa qua fiscalmente è davvero una porcata. Cioè, la parola magica è l'incentivo. Ma secondo lei le istituzioni, i comuni, devono avere un atteggiamento neutro rispetto a un fenomeno come quello delle slot machine, oppure è giusto anche avere un atteggiamento di limitazione positivo? Per esempio, il suo comune ha messo in atto delle politiche su questo, o come a Genova, come la Lombardia, oppure no? Beh, allora, noi abbiamo aderito a un patto generale di sindaci anti-slot già da parecchio tempo. Il problema è che la norma e le norme che si possono applicare per un comune sono molto complesse, quindi è difficile agire a livello locale se una norma nazionale permette, liberizza pratiche come queste. Quindi adesso noi ci stiamo, come dire, adeguando, cercando di interpretare le norme per vincolare la nascita di nuove sale slot, però bisogna trovare un metodo, invece bisognerebbe trovare la soluzione a monte. Sì, soprattutto mi sembra il problema è un po' anche che gran parte di questi introiti, cioè gli introiti enormi che ci sono, lei nominava anche gratta e vince, super enalotto, in realtà servono allo Stato e ai comuni poi per andare avanti con le loro amministrazioni, quindi diciamo c'è un po' anche un'ipocrisia in tutto questo. Allo Stato servono, sì. Esatto, solo allo Stato, perché i comuni... Voi non lo Stato che poi gira i soldi ai comuni, infatti loro dicono se voi non li incassate noi ve ne giriamo meno, era un po' questo. Era quello il meccanismo, ma i comuni ci guadagnano qualcosa o niente? Stato... I comuni, scusate, Pizzarotti, ci guadagnano qualche cosa oppure niente dalle slot? Chiariamo anche questo, niente. No, i comuni non ci guadagnano niente, ma anche se ci guadagnassero non è un ragionamento per incentivare le slot. No, certo che però no. Però ricordiamo un dato importante, che il bilancio rispetto al PIL dello Stato italiano al comune arrivano, sì, circa nel 6% delle risorse, che i comuni sono i veri erogatori di servizi di come dire, assistenza alla cittadinanza. È assurdo che sia così poco. Senta, dicevamo fare politica mettendo delle toppe, sembra un po' il destino del Movimento 5 Stelle, che fa tante battaglie e ogni tanto riesce a stoppare, e sicuramente gli va dato il merito, anche se la Lega direbbe che sono stati loro i primi a opporsi ad alcune di queste norme di fine anno. Lei per esempio a Parma è stato eletto sull'onda della battaglia contro l'inceneritore, poi l'inceneritore è partito comunque e lei sostanzialmente ne ha preso atto, non ne avete potuto far niente. Adesso questo è un capitolo chiuso, cos'è, un rammarico, una battaglia persa? Ma sicuramente è un rammarico e sicuramente una battaglia che andava combattuta al di là del risultato finale, perché è servita a sensibilizzare la cittadinanza, ma io penso anche tante regioni d'Italia, visto che, come dire, anche voi me lo chiedete, pur non essendo di Parma, ha sollevato un problema che sono gli inceneritori sul territorio italiano, che sono industrie insalubre di classe 1, come che era la definizione da manuale, che però rappresenta il fatto che la gestione dei rifiuti inceneriti è un problema di proprio concettuale, perché i rifiuti andrebbero valorizzati e riutilizzati. Sì, no, ma è per questo che le chiedevo se è un insuccesso e come avete fatto i conti con questa battaglia che ha caratterizzato molto il Movimento 5 Stelle di Parma e anche in un dibattito nazionale, perché abbiamo capito tutti che i rifiuti vanno riutilizzati e non basta bruciarli, perché è uno spreco dal punto di vista energetico. Per esempio, per quanto riguarda i livelli di raccolta differenziata, a Parma come c'è stato un incremento? Sì, noi nell'ultimo anno abbiamo, grazie all'applicazione del porta a porta spinto senza cassonetti, che arriverà nei primi mesi dell'anno prossimo a coprire il 100% della città, in un anno abbiamo aumentato del 9% la percentuale di raccolta differenziata. Che oggi si situa a che livello? A 58% circa. E invece gli standard, diciamo, richiesti, cosa sono? Il 60, forse qualcosa di più? Sì, infatti era Parma era ferma da tantissimi anni sotto la soglia del 50%, quindi era per una città come la nostra assolutamente inaccettabile. Quindi noi in un anno, solo in un anno, si è riusciti a alzare del 9%, e l'anno prossimo contiamo di fare altrettanto. Vabbè, poi l'altra grande questione che riguarda Parma era quella del debito. Come avete affrontato il debito che è stato quantificato inizialmente in più di 800 milioni, poi l'avevate addirittura rivisto al ribasso, un debito di circa 600 milioni di euro? No, 870, se usiamo il calcolo iniziale 870. Il calcolo fatto dal commissario uscente. Esatto, perché è usato un po' come metro di paragone, se no bisognerebbe entrare in un solito balletto di date molto italiano per i quali è difficile poi trovare un'interpretazione univoca. Quindi partendo da lì, tutti i calcoli e i riferimenti che facciamo per spiegare partono da lì. E quindi noi l'abbiamo già calato di circa 260 milioni di euro. Con delle operazioni finanziarie che forse è anche inutile stare a... Sì, sicuramente complesse, perché sono state delle dismissioni, sono state le società che hanno chiuso, sono stati tanti pagamenti. Noi abbiamo pagato più di 120 milioni di euro di debiti pregressi ad aziende che vantavano dei crediti. Senta, ma il vero motivo per cui l'abbiamo convocato, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, è per la questione dello SCEC, cioè della moneta, come dire, alternativa all'euro, della moneta, come la volete definire lo SCEC? Ma in realtà, esatto, non è una moneta, perché è, come dire, se vogliamo, è una forma di scontistica che però può essere riutilizzata e quindi passata di mano in mano, perché ovviamente le banconote hanno una valenza che deve essere della banca. Certo. Quindi non possiamo usare la parola moneta, però diciamo volgarmente si usa così perché serve per fare degli acquisti. Insomma. È una paramoneta, diciamo, perché nel momento che è una vera moneta, se state battendo moneta, direi che arriva la Guardia di Finanza, diciamo. Esatto, come diceva Pizza, è una paramoneta. A differenza di altre esperienze di questo tipo che ci sono, non so, il Sardex in Sardegna o altre cose che so anche proprio in Emilia Romagna. Bitcoin, quella è un'altra cosa ancora. Qua voi ci avete messo del vostro, cioè come comune, questa iniziativa la state in qualche modo sostenendo? Allora, noi la sosteniamo economicamente, nel senso che agevoliamo l'associazione SCEC di Parma, perché comunque non è il comune che promuove questa iniziativa, ma al pari di eventi sportivi, eventi culturali, eventi legati al settore educativo, sosteniamo anche questa associazione per la pubblicizzazione, l'emissione di queste cartonote e quindi la promozione attraverso gli esercizi locali e i cittadini di questa possibilità di valorizzare l'economia locale. Perché abbiamo letto che qualche giorno fa avete deciso di affidare a un punto di informazioni per proprio divulgare questa filosofia, questa pratica dello shek, uno di quei chioschi che stanno in città, in centro, e che prima ospitavano i vigili urbani, è vero? Esatto, che erano stati costruiti dalla precedente amministrazione, spendendo anche lì 250.000 euro, per questi gabbiotti, chiamiamole così, che dovevano ospitare la polizia municipale per dare un po' quello che era il claim dell'amministrazione precedente di centrodestra sul tema della sicurezza. In realtà i vigili è meglio che girino, che conoscano direttamente la popolazione, quindi noi abbiamo inserito il vigile di quartiere, che quindi ha come dire, un'attività che è sul territorio, non ferma in un punto, e quindi abbiamo in questo dato temporaneamente in utilizzo uno di questi chioschetti all'associazione Shek di Parma. Ma non c'è nessuna equivalenza tra le due cose, cioè non è che avete, uno potrebbe dire la giunta di Parma, la giunta 5 Stelle appoggia lo Shek ma abbassa la guardia sulla sicurezza, per esempio. No, sono due temi. I gabbiotti, o sì, comunque chiamati tali, erano vuoti già da diversi mesi, proprio perché invece di avere un vigile fermo in un punto è molto meglio che pattugli e comunque giri un quartiere in modo da rendersi conto di quello che accade. Senta, un'ultima cosa, sindaco, ma questa cosa degli shek è un po' come dire, siccome il Movimento 5 Stelle, Grillo in particolare, ogni tanto tornano sulla questione dell'uscire dall'euro, il furto dell'euro, eccetera, eccetera. Ora poi sappiamo che in concreto uscire dall'euro è molto difficile, forse nemmeno esiste un modo per uscire dall'euro, non lo so. Questa cosa qua dello shek è un po' la vostra risposta, cioè le monete alternative, il baratto, il Movimento 5 Stelle, che è un fautore per esempio della decrescita felice, oppure sono due cose diverse secondo lei? No, sono due cose assolutamente diverse, perché la moneta locale, voi avete prima avete citato ad esempio il Sardex, che è un'altra realtà molto utilizzata in Sardegna, serve proprio per cercare di lasciare sul territorio, attraverso sconti, attraverso l'utilizzo del credito che si ha da un'azienda, usarlo in un'altra azienda, proprio per cercare di lasciare sul territorio il valore, perché sempre più spesso politiche di franchising multinazionali o comunque grandi catene utilizzano i soldi che vengono spesi negli esercizi locali, ma poi vengono portati all'estero o comunque fatta una visione globale. Invece questo tipo di tipi di sconto, moneta alternative, chiamiamolo un po' come vogliamo, servono invece soprattutto per incentivare l'utilizzo nei negozi che hanno particolari caratteristiche, quindi in genere sono negozi locali o professionisti locali, e quindi il circuito di quello che viene speso rimane sul territorio. Ma è una tessera sconto poi alla fin fine, sì, diciamo. Qualcosa del genere. Praticamente sì, o uno scambio in un certo senso di crediti. No, poi mia mamma ucciderebbe per i punti del supermercato, mia mamma, noi ce li scambiamo tutti i Natali, quindi sono roba grave. Quante attività, sindaco, e poi ci salutiamo, economiche, commerciali di Parma aderiscono allo shek? Adesso il numero preciso non lo so dire, perché abbiamo letto una sessantina forse. Abbiamo letto una sessantina circa, può darsi? Sì, adesso non so se sia l'ultimo dato aggiornato, visto che avendo questo presidio insomma stanno incentivando molto l'attività, però era uno degli ultimi numeri era quello. Va bene, grazie, auguri a Federico Pizzarotti. Grazie a voi, auguri. Buona serata. Arrivederci. Borsa. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24. Riprendiamo con i vostri interventi. Cari ascoltatori, abbiamo Maurizio. Niente po' di meno che tu volevi fare una domanda al sindaco Pizzarotti. No, beh, sì, però... mi sarebbe piaciuto chiedere se, in caso di elezioni nazionali, se lui si candidava al Parlamento o se rimaneva sindaco di Parma. Ah, perché secondo te questa cosa è possibile? Così? Oppure beh, per sì, che è possibile. È quello che sta facendo Renzi, direi, no? Sì. Penso che possibile sia possibile. Tecnicamente, beh, però Renzi, diciamo, non è stata una notizia in attesa, insomma, si sapeva, no, è la mo che cerca di... No, però era interessante capire, diciamo, se il movimento, perché a volte sembrano molto staccati, diciamo, sì, quelli che sono in Parlamento, che sono più guidati, diciamo, da Grillo, invece chi ha la propria amministrazione comunale in realtà conosce molto bene i problemi, quindi magari lui non aveva nessunissima intenzione di andare a Roma. Però è bella questa cosa dello check, a me è piaciuta, cioè mi incuriosisce questa cosa, perché c'è della gente che davvero va in giro con questi italiani, con questi buoni. Ma tu stai scherzando? Ma mia mamma per uno sconto ammazzerebbe, si può dire? Spero che non stia ascoltando, sennò passo un bruttissimo capodanno. Maurizio d'Alessandria, buonasera. Eccomi, buonasera. Buonasera. Grazie. Beh, intanto vorrei farmi gli auguri per quello che avete detto prima. Spero ad aprile di essere richiamato per aver assunto un collaboratore nuovo. Lei che attività? Ah, bello, ci sta dando questo buon proposito per il 2014. Me lo sono posto ascoltando. Cosa fa lei nella vita? Beh, io mi occupo di risparmio energetico, importo alcuni prodotti, mi piacerebbe venderne qualcuno italiano, ma la concorrenza interna, ahimè, non è troppo libera. No, aspetti siamo un attimo. Lei troppo legati ai nostri orticelli. Ci deve dire cose più semplici, perché sennò io non capisco. Sennò non capiamo. Lei importa prodotti che hanno alcuni a che fare con risparmio per energetico. Risparmio energetico. Tipo? Che danno luogo, illuminazione, nuove tecnologie. LED? No, si chiama induzione. È una cosa che persino Grillo la come le, sono le cucine di induzione. Scusi, per cucinare. Persino Grillo? Ci sono da una vita, sì. Invece per l'illuminazione non se ne parla. Al momento faccio Don Quixote. Le importa in Italia. E c'è un mercato? Funziona? Enorme, sia per il risparmio che darebbe a chi impiega questa tecnologia. Mi piacerebbe realizzare una produzione in Italia, però mettere su una linea di produzione con le normative o anche una chiavetta digitale che mi dice realizza l'impresa in un giorno. Spero che questa qua è la Mandi, c'è la Mandi. Aspetta, quale ministro, quale parlamentare l'ha fatta questa cosa? Perché ne abbiamo sentite mille dell'impresa in un giorno. A quale si riferisce? Beh, tutti. Io ho la chiavetta, c'è sul sito del Ministero dello Sviluppo, del Ministero, cos'è? Di realizzare l'impresa in un giorno. Azienda in un giorno, però se vado a vedere tutte le normative. Sì, sì, come funziona questa cosa dell'induzione? L'ultima cosa, un'ultima curiosità su questa tecnologia, cioè è un accumulo di energia solare? No, assolutamente, è un tubo di vetro dove c'è dentro del gas, c'è una pasta, una malga che riveste l'interno di questo tubo di vetro. E poi vengono usati due magneti esterni. Oddio. E funziona come un trasformatore. Ah, vabbè, c'è un primario e un secondario, che in questo caso il secondario è il gas. Pensavo che fosse una cosa più semplice molto tecnica. Di che figura ha bisogno da assumere entro aprile? Perché ce la siamo segnata ormai la promessa. Giusto, è vero, scriviamo. Maurizio. Cioè, lei ha deciso Alessandria. Che vuole assumere una persona entro aprile, così? Tecnica, un progettista. Adesso vado a studiare da progettista. Assumere progettista, guardi che non scherziamo, e poi la richiamiamo a metà anno e vediamo. Bene, se speriamo. Trovo le risorse che servono. Sì. Senta, lei... Comunque volevo specificare una cosa rispetto al discorso che facevate prima sul commissario della Campania. Sì. L'ennesimo commissario della Campania. A me verrebbe da chiedere gli stipendi, l'auti erogati ai precedenti commissari, quali attività ce n'è una lunga posto. Schiera, si potrebbe fare un'intera puntata solo citando i commissari. No, per mi i rifiuti in Campania. Un 9 milioni di euro di liquidazione come dirigente delle ferrovie, bilancio iniziale, bilancio finale. Io ho lavorato quasi 20 anni per i giapponesi. Se avessi fatto una cosa del genere, dopo mezz'ora sarei stato messo fuori dalla porta. Cioè dice un'altissima liquidazione, nonostante in realtà dai bilanci il lavoro svolto fosse un euro disastro. 9 milioni di euro come liquidazione, entrando in un'azienda che ha un passivo e poi lo decuplico questo passivo, mi sembra che 9 milioni di euro di liquidazione non sia. Maurizio, intanto grazie per il suo buon proposito per l'anno prossimo, è il primo che chiama questa sera. Però è quanto mai centrato, no? Esatto. Assumere una persona. Non mi sembra piccolo per niente, speriamo che ce la faccia. In bocca al lupo, grazie. Arrivederci. 50% in più. Certo, perché da solo, e quindi si tratterebbe di raddoppiare. È tantissimo. In bocca al lupo per personale. Questo. A presto. Grazie. Alessandro, grazie dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Semplicemente, velocemente, per non farvi perdere troppo tempo. discorso che facevate con il sindaco per l'ordinanza contro le prostitute della strada. Sì. In due parole, si fa una modifica al codice della strada, ai sindaci, scusate la... di mettere dei pannelli, dei cartelli, segnali stradali dove è vietato l'autostop in determinate zone frequentate da, oppure a tutto il territorio comunale, perché queste ragazze ovviamente allungano la mano, fanno un cenno per fermare una macchina e quindi è un autostop. Come è vietato in autostrada perché è pericoloso, si può fare nei comuni in quanto pericoloso. Beh, ho capito, però se in quella strada c'è mia mamma, allunga la mano, io mi fermo, non è che arrestano mia mamma come prostituta. Quindi... Tua mamma chiede un passaggio, non chiede di fare qualcos'altro, giusto? È ovvio che se si vuole si mette sotto il cartello ai fini delle trattative di prestazioni sessuali. Se proprio direi che è più precisa l'ordinanza del sindaco a questo punto, nel senso che è vietato fare l'autostop. Beh, insomma, se la giocano, eh? Il sindaco Pavia di Gioia del Colle. È riduttivo secondo come me. La state prendendo, perché... Sì. Cioè, per lei, scusi Alessandro, lei crede veramente che con delle ordinanze, no, lo sto chiedendo seriamente, non è ironico, cioè che si possa e si debba in qualche modo arginare il fenomeno della prostituzione per strada? No, perché abbiamo tutti gli strumenti. Il problema è sempre, in Italia, il problema di violare la legge, andare ai limiti della legge, tutto è sempre semantico, non è mai un discorso in materia. Beh, questo non è male. Nella fattispecie della cosa, e quindi sempre con discorsi di parole bisogna cercare di trovare il modo di dissuadere determinati. Va bene, grazie Alessandro, lo sentiamo malissimo, però abbiamo capito, questa cosa qua del discorso semantico non è male, perché in Italia spesso si gioca tutto sulle parole, ecco. Ma perché anche l'ordinanza era molto bella per quello, non può vietare la prostituzione, va a ricercare cose che può vietare e quindi diventa fantasiosa. Era bello però perché il sindaco è perfettamente conscio di questo problema semantico di linguaggio. Purtroppo sì. Silvia da Parma, buonasera. Buonasera, ho ascoltato purtroppo il sindaco della mia città. Ai. Quale? Beh, perché l'abbiamo sentito più di uno. Io non voglio fare la voce discordante, perché non ne ho nessun diritto. No, però no, io, vorrei, io credo che voi abbiate visto Parma, qualche, non so se siete mai passati a Parma, è una città che è splendida, era splendida, adesso è totalmente in rovina. Era splendida fino a che anno fa? Mi scusi Silvia, era splendida fino a quando? Fino a 5-6 anni fa. Okay. Cioè 4-5 anni fa. Poi dopo è incominciata la storia del fatto che tutto è stato lasciato a se stesso. In cosa più, per esempio? Cosa è stato lasciato a se stesso? Le strade addirittura lasciamo perdere, le persone anziane lasciate a se stesse, gli asili carissimi. Io non capisco come possa una persona che guadagna 1200 euro al mese pagare 650 euro di asilo a un bambino. Io questo non lo capisco. Noti che io non ho bambini, cioè ho 58 anni, mio figlio è già grande, voglio dire. Però non è un problema solo di Parma questo, eh? No, ma soprattutto, mi scusi, secondo lei questa decadenza della sua città è dovuta esclusivamente al fatto che noi siamo capitati in mano a gente che non sa assolutissimamente niente. Ma non per colpa loro, comunque non sa assolutissimamente niente come si faccia a governare una città. Ma lei si riferisce, scusi Silvia, lei si riferisce a Pizzarotti o si riferisce alla precedente giunta che ha lasciato una buca di 870 milioni di euro? Questa qui è la cosa che racconta lui. No, come è la cosa che racconta lui, Silvia? C'è stato un commissario, Parma nel 2011 era fallita. E non è colpa di Pizzarotti, guardi, Pizzarotti può avere tutte le colpe del mondo, però ma, non quella, è venuto ma prima. Non quella del fallimento della città, quasi un miliardo di euro di debiti. Non è affatto vero. Non è vero, va bene Silvia. E allora mettono in giro loro, ma l'hanno messo in giro i bilanci dello Stato. Se fosse stato ristrutturato il debito, che non è affatto di un miliardo, assolutissimamente, no, quant'è il debito? Lei lo sa? Guardi, il debito vero, lei lo sa? Ha visto le carte? Dicono. E lei le ha viste? No, io mi fido di quello che dice il commissario di governo, che ha certificato 846 milioni di euro. Io mi affido a quello. Silvia, lei a cosa si affida? Scusi. Lei a cosa si affida, Silvia? Lei a cosa si affida nella vita in generale? A qualche santone indiano? A cosa si affida? O alle carte, o ai giornali qualche volta? No. Insomma. A cosa dai giornali, guarda come si dice giornale, per l'amor di Dio. Comunque, io dico soltanto una cosa: qui non si è visto assolutissimamente niente. Va bene, questo è possibile. Le ripeto una cosa: c'è un'arroganza in giro che è pazzesco. Sentivo che parlava anche dei lei. Non c'è male come arroganza, Silvia? Anche lei non c'è male come arroganza. Non ho mai visto un vigile nel mio quartiere. Sì. Mai. E ho un quartiere, e abito in un quartiere vicino al centro. Mai visto un vigile. Ma uno mai. Il vigile di quartiere dovrebbe esserci. Ci ha appena detto Pizzarotti che c'è il vigile ha di detto quartiere. Così, ha detto così. Questo però. No. Silvia, lei naturalmente neanche a chiederglielo del vigile di quartiere. Va bene. Vuole aggiungere qualcos'altro? Vuole espandere no, ancora un po' della sua sapienza? Non capisco perché mi aggredisca se dico una cosa diversa da quello che pensa lei. No, a me quello che non va giù è che lei pretenda di sapere quali sono le cifre vere del fallimento del bilancio della sua città e non cita né le fonti né le cifre e dà solo addosso a Pizzarotti, il quale può avere tutti i demeriti di questo mondo, ma non quello di avere prodotto un debito che c'era prima di lui. Ha capito? Questo non mi va giù. Logicamente non mi va giù. Dal nulla. Sì. È venuto fuori per il semplice fatto che il PD ha messo un concorrente a questo sindaco che era Silvia, ma lei nella vita cosa fa? Che lavoro fa? No, io adesso purtroppo sono molto malata e non so neanche se arriverò. Comunque io ero una professionista e lavoravo, ero libera professionista, ho sempre pagato le mie tasse, ho sempre fatto tutto. Però il PD, voglio dire, aveva messo una persona che non si poteva candidare, ma non poteva per motivi legali, per l'amor di Dio. Mm-hmm. Però era improponibile perché erano 40 anni che era sulla vita politica, per cui la gente si è buttata. Per non votare quello ho votato questo, ha capito? Ma dice che il PD l'ha fatto apposta, diciamo, per favorire Pizzarotti, o è stato un errore di valutazione politica? Lo conosco PD a Parma. Io però dico che ha voluto mettere la persona che era candidata, si è imposta perché aveva un certo potere nel PD sia cittadino che nazionale, per cui è stata ammessa la sua candidabilità. Senta, ma se Silvia, un piccolo pallino qualsiasi. Sì, però mi sta a cuore un attimo quello che ha detto prima. Lei ha detto che adesso non lavora più, però lavorava, era libera professionista. In che settore? Finanziario. Tipo assicurazioni, cose così? No, non fino all'assicurativo, investimenti. Senta, ce l'ha una bella notizia del 2013 che si ricorda, che si vuol portare di là nel 2014? Guardi, io ho avuto una bruttissima notizia nel 2013. E quindi, per cui spero di poter arrivare alla fine del 2014. Perché lei è malata, Silvia? Allora le facciamo tanti auguri naturalmente per questo. E un grandissimo in bocca al lupo. Va bene, grazie. In bocca al lupo, signora. A presto, a prestissimo. Grazie, Silvia. 800 24 00 24. Noi però qualche buon proposito in più lo vogliamo sentire. Quello di prima di Maurizio non era male, da Alessandria. Segna tutto, Carlo, mi raccomando. Stiamo per regalare un'assunzione entro aprile. Io sto studiando da progettista, sto cercando di capire l'induzione, il gas nei tubi, quelli là di prima, ecco. Roberto dalla provincia di Pesaro. Prego. Pronto, ciao. Sì. Sono io. Allora, intanto se quel signore di prima, l'imprenditore, ci avesse dato la sua email sarebbe stato interessante. Ci abbiamo provato. No, io ho un figlio disoccupato di 34 anni che faceva il geometra e poi è stato fregato da quelli della Green Energy di Eni che stanno geometra, dando lui sta cercando un progettista. No, quindi ma ci non è un problema, stare. Mio figlio è anche progettista, CAD, eccetera, ha fatto 200 corsi, quindi non è un problema. Si adattava benissimo, come avranno fatto tutti gli altri a fare e a progettare delle cose a induzioni, non è quello la gran cosa. Comunque, a parte quello, ci vorrà sicuramente un ingegnere comunque per fare questo lavoro qua. La buona notizia, ma è l'unica notizia buona che è stata data da 60 anni a questa parte, ragazzi miei, che un partito politico ha restituito dei soldi ai cittadini, allo Stato, il Movimento 5 Stelle, punto. Non ce n'è altra di buona notizia e speriamo che la cosa continui anche l'anno prossimo, sicuramente continuerà. Tra l'altro voglio farvi anche i miei complimenti per le vostre prese di posizione a favore di Pizzarotti, non in quanto Pizzarotti, ma in quanto giustamente non ha nessuna colpa per il buco che è stato lasciato dalle cose. Cioè, avete perfettamente ragione, vi faccio i complimenti. Questo è anche un bambino, capito. I buoni propositi, un buon proposito? Ma insomma, essere un po' preso un po' meno in giro per il mio entusiasmo, perché spesso purtroppo il mio entusiasmo mi ha portato a essere usato da... Però questo è un buon proposito che riguarda gli altri, esatto, non lei. Cioè, e poi a noi piace un sacco... No, riguarda me stesso, ma è il mio entusiasmo che devo frenare ogni tanto. Ah, lei vuole frenare l'entusiasmo. Non lo freni l'entusiasmo, non lo freni l'entusiasmo. Non è interessante. Allora c'è da buttare a mare un bel po' di gente, purtroppo, perché purtroppo Grillo non ha fatto abbastanza pulizia nel Movimento 5 Stelle. Ma mi dica, c'è da farne parecchio. Mi dica all'interno del Movimento 5 Stelle bisogna fare pulizia? Sì, sicuramente. Ci sono troppi ex sindacalisti, troppi ex politici, troppa gente infiltrata. Mm-hmm. Gente che non ha niente a che vedere col movimento di Grillo, col pensiero di Grillo, con quello che era inizialmente, capito? E poi sta diventando purtroppo, dico tre volte purtroppo, il movimento dei forconi alla fine. Poi finiamo così. Forse i più puliti, i più puri li perdiamo perché vengono fuori delle cose così estemporanee e molto populiste che finiscono. Ma i più puri sono quelli che sono andati nei forconi? Ma rischiamo di perdere qualcuno anche da quella parte lì. Ah. Saranno anche di estrema destra, saranno anche di qua. A me non mi interessa il colore politico, io sì. Sono i top in casa, non guardo il colore del Che se i più puri vanno in piazza, quegli altri li manda via Grillo, rischia che il Movimento 5 Stelle rimanete in due. E difatti, questo è il problema. Qualcuno sì è stato mandato via. Anche giustamente. Mi dice però una cosa, Roberto. Sì. Per quanto mi riguarda, la mia opinione, che come al solito nel Movimento 5 Stelle vale per uno, e che giustamente i malati di protagonismo meglio che non ci siano nel Movimento 5 Stelle. Senta, mi dice però una cosa. Mi dice una cosa. Quando il suo entusiasmo le è stato fatale, qualcuno si è approfittato recentemente del suo entusiasmo? Perché l'ha detto come se avesse in mente un fatto particolare. Sì. No, vabbè, adesso non voglio entrare in particolare, ci mancherebbe altro. Ma non solo adesso, io ho quasi 57 anni, ho fatto politica negli anni 70 e 80 a Milano, sì. Sono stato anche consigliere di zona. E la stessa cosa succede anche in altri partiti, succedeva già allora, negli anni 70, cioè se si veniva usati e poi buttati via, chiaramente. Dai partiti, no? Sì, i militanti di base hanno quasi sempre tutti fatto quella fine, almeno, ma non che abbia delle velleità di carriera politica. Va bene. Grazie, auguri Roberto. Auguri, grazie. Andiamo, dove andiamo? Paolo che ci chiama da Firenze, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Io durante il rientro a casa in macchina ho sentito il vostro colloquio col sindaco di Gioia del Colle inerente alla prostituzione. No? Sì. E io veramente è una cosa incredibile, perché la prostituzione sicuramente, se c'è qualcuno che pensa si possa debellare, non è stata debellata in 2000 anni, figurati se si riesce adesso, ma perché non si tassano queste prostitute? Tutti i filmati che si vede alla televisione, nelle ricerche, eccetera, eccetera, si dice che in Italia ci sono 200.000 prostitute. Sì. Hanno un profitto medio da 500 a 1.000 euro al giorno, medio. Vorrà dire circa 15.000 euro al mese, ma mettiamo 12.000. Se pagassero il 30% di tasse, 3.000 euro al mese ciascuno, e sono 600 milioni l'anno al mese, sono 7 miliardi l'anno. Beh, con quel reddito pagherebbero il 50 con quel reddito, non il 30% di sicuro. Va bene, anche il 50, perché quanto paga lei di tasse? No, è questo che dico, stavo dicendo che addirittura ne pagherebbero di più, le sto dicendo. 50, se invece dei 600 sono 500 vanno bene lo stesso, sono sempre però 5 miliardi. Le stavo dicendo che pagano di più, non di meno. Sì, ma questo poi dipende da quanto uno guadagna. Paolo, grazie, anch'io penso che si potrebbero tassare, bisognerebbe cambiare un po' mentalità in Italia, anche questa è una cosa che si dice mille volte, in alcuni paesi funziona, nel nord Europa per esempio ci sono delle controindicazioni sicuramente, però più che altro sarebbe bello parlare di cose così e non... Ora noi l'abbiamo chiamato il sindaco di Gioia del Colle perché comunque l'ordinanza è un fatto pubblico, no? E quindi è giusto che i concittadini lo sapessero, però... A cosa servono? Tu hai finito di leggerla, Gabardini, intanto l'ordinanza? Certo, te l'ho anche citati dei pezzi a memoria. Diciamo la verità, non servono a un tubo queste cose, servono a prendere qualche voto. Ma questo tipo di ordinanza serve semplicemente ad avere la possibilità, nel caso che uno voglia fare la multa a qualcuno, di fargliela. C'è un motivo per farlo. Bisognerebbe chiamarlo l'anno prossimo e chiedergli quante multe ha fatto dopo questa ordinanza. Ma vorrei sapere anche in che tribunale, voglio dire, si può far passare il saluto allusivo, ecco, mi interesserebbe assistere al processo. Stefano da Torino, buonasera. Stefano? Buonasera. Eccolo. Buonasera. Tocca a lei. Buonasera, grazie per l'invito, saluto sì. anche tutti gli ascoltatori. Allora, io torno un attimo sul tema precedente rispetto agli inceneritori e alla terra dei fuochi. Sì. Rispetto al discorso più generale che in Italia è quantomeno ipocrita, cioè esistono degli inceneritori a caldo, uno dei più recenti, quello che è stato costruito a Torino recentemente, che producono ben più danno e inquinamento che non la terra dei fuochi. Ora, se ci fosse una riflessione politica a livello nazionale sulla possibilità, e in Europa ci sono le possibilità in modo assoluto, in Germania per esempio, di costruire degli inceneritori a freddo che quindi producano energia e non inquinino, io credo che di conseguenza l'epifenomeno della terra dei fuochi verrebbe a mancare quasi d'ufficio, ecco. Quindi è un discorso un po' più sì. generalizzabile, che non puntiforme come sulla terra dei fuochi, che è un problema, per carità, non è che dico che non lo sia. Sì, Stefano, cioè lei fa un parallelismo tra il fatto che si brucino i rifiuti a cielo aperto, come accade nella terra dei fuochi, roghi di rifiuti, e alcuni inceneritori che producono comunque, che è la stessa cosa, le dice, solo che si fa all'interno di un inceneritore. È un po' parafrasando una frase biblica, guardo la pagliuzza nel mio nemico e non vedo la trave nel mio occhio. Senta, lei ce l'ha una buona intenzione, un buon proposito, un buon proponimento per l'anno prossimo, Stefano? Ne avrei due in realtà. Ecco, sentiamo. Il primo è di continuare a riuscire a pagare le tasse lavorando con onestà, come sto continuando a fare da diversi anni. Lei è libero professionista per caso? Ahimè sì. Però bellissimo, cioè, il suo buon proposito è continuare a pagare le tasse, questo è complimenti sì. per il momento. È un po', sì, sarà sì. anche un po' ironico forse o no? No, essere in grado. Sì. Ok. Non ricevo di per sé moltissimo dallo Stato, però mi rendo partecipe a contribuire a che questo Stato possa cambiare anche attraverso le mie tasse. Va bene, poi l'altro? Il secondo proposito è un po' più banale, se vogliamo, è continuare a partecipare anche a quelle attività benefiche tipo Teleton, Adotto un Bimbo, che quest'anno mia moglie mi ha costretto a iniziare e il prossimo anno continuerò senz'altro. Bello Stefano, bravo. Complimenti, soprattutto per l'onestà, mia moglie mi ha costretto, è molto bello. Sì. Cioè, non avevo mia moglie mi ha veramente voglia. Costretto, no, mi sono sposato. Mi immagino la discussione. Bravissimo Stefano, grazie. La chiamiamo grazie ad aprile, non pensi che sia la Guardia di Finanza per chiedere se lei è riuscito a pagare tutte le tasse? D'accordo, però non mettete il numero sconosciuto perché non rispondo a questi. Va bene. Grazie, buona grazie, giornata. Auguri, dobbiamo fare una pausa, torniamo subito dopo. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, vediamo un po' con Pietro La Corte in regia se siamo sincronizzati meglio, soprattutto per colpa mia, e se abbiamo i titoli. Sì, TG1. Michael Schumacher in coma, gravi lesioni cerebrali, nessuna previsione sulle possibilità di sopravvivere, dicono i medici. Congo, l'appello delle famiglie adottive, siamo in pericolo, il governo lavora per una soluzione positiva, intanto a Kinshasa è battaglia. A dicembre sale la fiducia delle imprese ai massimi da 17 mesi, spread al minimo, ottimismo di Letta, ora il patto di coalizione sul lavoro e riforme. Terrorismo in Russia, nuovo attentato suicida a Volgograd, dopo la strage in stazione altri 14 morti su un bus. Terremoto nel Sannio, continua lo sciame sismico, 130 scosse dopo quella di magnitudo 4.9 di ieri, ancora paura ma pochi danni. Ultimo saluto alla bimba di 9 anni travolta da un romeno ubriaco, ora libero, al TG1 l'appello dei genitori al ministro Cancellieri. Il film dedicato a Nelson Mandela, presentato in anteprima a Capri, ospite della manifestazione l'attore protagonista Idris Elba, che dice un'emozione essere Madiba. Allora, riprendiamo con gli interventi degli ascoltatori. Dove andiamo? Andiamo a Luca. Cercare delle buone notizie, speriamo. Delle buone notizie. Luca che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ci date una buona notizia del 2013, almeno una che portiamo nel 2014, Luca? Ma penso di sì, nel senso che la nostra buona notizia del 2013 è che abbiamo rilevato da una multinazionale inglese, un'azienda italiana, abbiamo fatto un management buyout, un'azienda che è in difficoltà, diciamo, e in quest'anno di lacrime, sangue e sudore abbiamo portato questa azienda in positivo. E quello che vorremmo portarci nel 2014 è cercare di andare avanti con questo positivo, quindi mi ricollego anche all'ascoltatore precedente, cioè continuare a pagare le tasse. Lei che cosa fa? È un socio, è titolare oppure è un manager? Allora, io ero un dipendente, adesso sono manager dell'azienda. Diciamo che non ho partecipato non ho delle quote io in prima persona, ma sono colui che ha seguito, diciamo, la cessione dalla multinazionale inglese. In che settore siete voi? Siamo in un settore difficile, il settore della formazione e della convegnistica. Addirittura, quindi, cioè organizzate convegni, turismo, come si chiama? Business tourism? No, organizziamo convegni in Italia e corsi di formazione di alto livello, molto specializzati. È un buon proposito per l'anno prossimo? Hai detto portare avanti questa azienda. Ah, giusto, quello di pagare le tasse, giusto, vero. Sì, un buon proposito è anche una speranza sostanzialmente, perché il punto è che noi crediamo, nella nostra missione, i nostri valori sono appunto credere nelle risorse umane. Io credo che l'unica cosa, la cosa più forte che può far uscire l'Italia dallo stato in cui è, farla progredire, investire sulle risorse umane, sulla gente che lavora che si fa veramente un mazzo dalla mattina alla sera e che ha delle grandi competenze. Senta, quanti dipendenti, quante persone lavorano lì in questa azienda che avete rilevato adesso? Siamo 30. 30. Ecco, quindi un'azienda anche di come si definisce? Medie dimensioni? Ma, piccola. Sì, nel panorama italiano forse di medie dimensioni. Esatto. Considerando il panorama mondiale di piccolissime dimensioni. Cercando di astrarre da considerazioni personali sul tema del, per esempio, articolo 18 e comunque delle riforme del mercato del lavoro, di cui ogni governo ne fa una, hanno un impatto secondo lei su un'azienda come la vostra, oppure le vostre pianificazioni prescindono completamente da quel tema lì? Allora, le nostre pianificazioni prescindono da quel tema, ma indubbiamente c'è un impatto. C'è un impatto secondario, nel senso che noi non possiamo intervenire su questo naturalmente. Però la possibilità di creare della vera flessibilità nel mondo del lavoro è quello che è una cosa importante per far crescere le aziende. È vista spesso come aiuto, non ci sono più diritti per i lavoratori, in realtà non è vero. Io la interpreto esattamente al contrario. E la interpreto da dipendente in questo modo. Va bene, grazie Luca. Grazie mille. E auguri. Buona serata, auguri. Grazie anche a voi, auguri a tutti. Lo andremo a ricercare nel 2014, durante Si può fare. Avremo bisogno di uno della Guardia di Finanza, perché qua tutti vogliono pagare le tasse, mi sembra stupendo. Bisogna verificarli. Forse tutti. Sono degli scherzetti. Diventeremo degli esattori delle tasse. Esatto. È già due che hanno questo buon proposito. È un modo come un altro per dire voglio andare avanti con la mia attività. Il mio buon proposito invece per il 2014 è di continuare a lavorare a Radio 24, perché la mia buona notizia in realtà del 2013 è che io ho iniziato a lavorare a Radio 24. Cioè, in realtà sono ancora in stage e voglio vedere, spero moltissimo di avere lo stage confermato anche per il 2014, perché altrimenti oggi è la mia ultima puntata. Cavolo. Beh, mancano due giorni per scoprirlo. Non ma io domani non ci sono, quindi per me è la mia, potrebbe essere la mia ultima trasmissione. Va bene, restiamo con questa suspense. Restiamo con questa suspense e andiamo a Dario che ci chiama dalla provincia di Latina. O abbiamo la pausa obbligatoria da fare? Abbiamo la pausa? La facciamo dopo, Dario? Abbiamo una pausa. Dario, prego. Buonasera, Dario. Buonasera a tutti. A tutti, un bocca al lupo per la conferma dello stage al contratto. Grazie mille. È caduta la linea parola contratto, è una roba molto italiana. Evidentemente è scattata la tagliola del Sole 24 Ore. È caduta un po'. Dario, mi occupo di contenzioso bancario e vedo delle cose assurde, cioè nel senso di una... No, Dario, la sentiamo male, vediamo di recuperarlo perché ci dispiace non sentirlo. Anche perché è l'unico che ha telefonato per farmi, diciamo, i complimenti. Esatto. L'unico proprio in due mesi. No, non i complimenti. TG della 7 e poi vediamo se recuperiamo Dario. Titoli. Alla vigilia del discorso di fine anno, sul Corriere della Sera, un articolo torna ad agitare lo spettro delle dimissioni di Napolitano se non si faranno le riforme. Il capo dello Stato oggi ha firmato il decreto mille proroghe e le opposizioni si scaldano e alzano la voce contro il Quirinale. Grillo torna a parlare di impeachment e annuncia un suo discorso su Web domani alla stessa ora. La Lega invita i militanti a non accendere la TV e Forza Italia usa il sarcasmo, è delegittimato, difende solo Letta. Non minacci di dimettersi, ma sciolga le camere, scrive Brunetta. Intanto l'Istat lancia l'allarme povertà in Italia. Per effetto della recessione sono i dati sono raddoppiati rispetto al 2005 e in termini assoluto sono ai massimi livelli dal 97. Il 12,7% delle famiglie vive sotto la soglia della povertà relativa. Nel rapporto sulla coesione sociale l'Istituto di Statistica parla poi di stipendi fermi. Rispetto al 2011 si sono aggiunti solo 4 euro e un pensionato su due non arriva a 1000 euro al mese. Michael Schumacher è in coma, la situazione è critica a causa di lesioni cerebrali diffuse, dicono i medici dell'ospedale di Grenoble, dove l'ex campione di Formula 1 è ricoverato da quasi 24 ore dopo la caduta mentre sciava fuori pista. Schumi è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, i dottori non si sbilanciano, è impossibile ora pronunciarsi sul futuro. Il dramma degli italiani bloccati in Congo. Nel paese africano cresce la tensione. Gruppi ribelli assaltano l'aeroporto di Kinshasa, la capitale, e la televisione di Stato. Si contano 40 morti e dalle 24 famiglie italiane che da un mese e mezzo aspettano di poter rimpatriare con i figli adottati, arriva un'allarmata richiesta di aiuto. Siamo in pericolo, ma non partiamo senza i nostri figli. Il governo si muova. A 24 ore dall'attentato alla stazione un nuovo attacco semina morte a Volgograd, a colpire di nuovo un kamikaze che si fa esplodere su un filobus provocando 15 morti. E a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali la Russia si trova al centro del mirino del terrorismo islamico ceceno. Putin avverte, i terroristi non ci piegheranno. Intanto abbiamo su Twitter Lorenzo Vascotto che dice: non affidare più le mie aspettative ai buoni propositi, ma camminare un passo per volta. E anche questo però è un buon proponimento. Un buon anche proposito. Questo. Chiami tu però ad aprile per chiedere se ha fatto un passo per volta. Forse chiamiamo a febbraio, perché se ha sbagliato strada un passo per volta conviene cambiare, chiamare un po' presto, perché se aspettiamo aprile chissà dov'è. Allora, avevamo Dario, ce l'abbiamo ancora? Sì, eccoci. Eccoci, Dario da Latina, prego. Eccoci, vi dicevo, io mi occupo di contenzioso bancario e c'è secondo me una follia totale nella legge bancaria. Vedo delle cose assurde. Oddio Dario, ma lei ha sbagliato trasmissione, doveva chiamare Salvadanaio Focus Economia, noi non siamo preparati su questo. Un proposito per l'anno prossimo è che per la prima volta una banca è stata condannata a gennaio 2013, la Corte di Cassazione l'ha condannata. Quale banca? No, non si può dire. Perché no? Perché no? Perché neanche sulla sentenza è stata pubblicata. Se andate online vedete che è stato cancellato il nome della banca. Allora non è stata condannata, le condanne non è che sono segrete. Ma comunque, Dario, ma lei c'entra qualcosa? Lei personalmente c'entra in questa o ci sta raccontando una notizia generale che non la riguarda? No, io mi occupo di contenzioso bancario, per la prima volta una banca è stata condannata. Ma da che parte sta, diciamo? Sta dalla parte dei correntisti o delle banche? È un avvocato dei correntisti. È un avvocato. Va bene, è una banca italiana? È una banca italiana, sì. È una tra le prime tre banche italiane? È una delle prime. E cos'è? Indovina chi? Aspetta. No, giusto per avvicinarci. Hai baffi? Hai baffi? Il direttore ha i baffi? No, è senza baffi, credo. Vabbè. Ah, direttore senza baffi. Io ho capito forse. Carlo Gabardini che non sa un tubo di banca ha capito, quindi è fatta. Mi scusi, allora. È sempre molto profumo, chissà. Boh. Vado a cambiare il conto. Senta, ma va bene, questa banca è stata condannata, questa nota banca senese è stata condannata per una cosa. No, ma vi rendete conto? Cioè, una banca ha il diritto di poter cambiare in maniera unilaterale il contratto. Beh, in realtà non ce l'ha questo diritto. Non è quella lettera che ti arriva a casa e hai 60 giorni per accettarlo o meno. Mi scusi, io sono veramente ignorante, però è così. Assolutamente sì, perfetto. Ah, ok. Però se lei ha uno scoperto da 200.000 euro, i 60.000 euro o ridà i soldi alla banca. Ah, certo, oppure non può. Delle condizioni. Chiarissimo, chiarissimo. follia questa, soltanto in Italia ce l'abbiamo. Però mi scusi, qua è la norma, mi scusi, qua però è la norma che andrebbe cambiata. Cioè lei saluta con favore la condanna della banca? Assolutamente sì. Perché giustamente chi non si metterebbe dalla parte del consumatore e del correntista e non da quella della banca, è ovvio, anch'io sono con lei, però perché vi ha salvato la Corte di Cassazione, ma è la norma forse che va cambiata? Infatti sì, assolutamente sì, va cambiata la norma, però ci sono. Perché altrimenti siamo il paese governato dalle sentenze, no? Una volta va bene, una volta va male, però non c'è mai un ordine vero. Però se a Milano dicono A, a Catania dicono B. Infatti, questo infatti non va bene. Quindi il buon proponimento per l'anno prossimo sarebbe quello, Di dire tutti A. Di dire tutti A, che ci siano altre sentenze come che facciano giurisprudenza, non dico a favore dei consumatori, ma una equità maggiore sarebbe auspicabile. Quant'era il contenzioso, scusi, ce lo ricorda? 230.000 euro, qualcosa del genere. Quindi anche lei la parcella ha beccato una bella parcellina? No, io non c'entro nulla, peccato. No, vabbè, sì, era giusto per ridere. Grazie Dario. Ma grazie tasse, mille, però. Anche perché grazie. Poi è un avvocato, sono felicissimo che sta dalla mia parte, ha detto spero che ti confermino lo stage, quindi sono in una botte di ferro. Tengo il tuo numero, Dario, grazie. Allora, ce lo segniamo, Dario da Latina, la sua buona notizia del 2013 è la banca, la grande banca, condannata per un contenzioso nei confronti di questi risparmiatori. Noi ne abbiamo fatte anche noi di storie così, per esempio con la Lehman Brothers. Storie più grosse. Quella era una storia. Volevi proprio sparare alto. Il pensionato che aveva preso, aveva visto sfumare tutti i suoi risparmi. Che l'avvocato è riuscito a vincere. Sì. Anzi, anche quella dovrebbe fare giurisprudenza in teoria. Vediamo. Paolo da Treviso, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Volevo partire con i buoni propositi. Prego. Vada. Allora, innanzitutto di cessare la cassa integrazione che abbiamo in azienda. E poi di poter assumere una persona. Siamo già in corso di assunzione per un venditore, per cui la Lombardia, noi ci occupiamo di nastri adesivi, siamo una filiale tedesca, la filiale italiana di un'azienda tedesca, di una multinazionale tedesca. Allora, riassumiamo, lei lavora per la filiale italiana di una multinazionale tedesca che si occupa di nastri adesivi. Lo Scotch. Esatto. Lo Scotch. No, Scotch è un brand. No, ma intendevo il whisky io, quindi mi salvo così, va bene? Allora così va bene. Ottimo. Lei Paolo in questa azienda cos'è? È un dipendente o è un... Io sono l'amministratore delegato dell'azienda. Ah, perfetto. Quindi diciamo lei ha voce in capitolo in questo rilancio, E il suo buon proponimento per l'anno prossimo è assumere almeno una persona. Assolutamente sì, siamo già in corso di assunzione, per cui concluderemo questa assunzione nel primo quarter sicuramente. Cioè lei parte già avvantaggiato perché è già iniziato l'iter. Non so se questo vale, perché è iniziato nel 2013, sì, però vale. Si può interrompere in qualsiasi momento. Quanti siete in azienda al momento? Siamo una trentina, facciamo parte di questa multinazionale che diciamo ha nel suo organico più di 4.000 persone, per cui siamo una grande azienda per quanto riguarda noi. Poi in Germania questo tipo di azienda viene considerata media perché non ha una dimensione così grande. Quindi la chiamiamo intorno a marzo per capire se ha veramente alla fine assunto la persona. Sì. E brindiamo. Poi volevo farvi i complimenti perché mi ricordate il Cruciani della prima ora, così speriamo si redima un attimino il Cruciani, che ha preso una piega ultimamente che non è un granché. Siamo il Cruciani della prima ora, questo è interessante, essendo forse la mia ultima trasmissione, mi interessa questa cosa. Spero lo prendiate come un complimento. Io totalmente come un complimento. Ma la prima ora a cosa si riferisce? Cioè, perché adesso il programma è cambiato e non le piace più? No, mi piace molto meno. Avete presente il jingle che fanno andare lo spettatore, l'utente della radio che dice godo quando sono al casello di Garisio perché mi fate ridere, voglio ridere. Ecco, ho capito. Sinceramente vorrei godere un po' meno e essere un po' più interessato di quello che si dice. Comunque. Va bene Paolo, grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Auguri e continui ad ascoltare Radio 24. Traffico, torniamo subito dopo. Ne abbiamo di bei proponimenti. Adesso poi dobbiamo elencarli tutti, riassumerli, eccetera, eccetera. Traffico. Sentirsi come papà senza santi da pregare. Si può fare. Ed avere tanti soldi. Fare, si può fare. 800 24 00 24. Abbiamo Alberto che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buoni propositi o buone idee? Sta già ridendo perché faccia lei. No, sì. No, io sono qui proprio per non creare. Allora, cosa, Alberto? Della... Sì. Posso andare? Sì, sì, vada, sì. Vada. Ho della roba che mi è rimasta data l'età, che non la uso più perché non riesco più, perché sono vecchio ormai. Sì. La vorrei trovare della gente che me la conducesse avanti. Quando lei dice che ha della roba, cosa si riferisce? Aspetti. È un'officina smessa, perché l'età non lo faccio più, del terreno agricolo che non riesco neanche più ormai a fare quello che ci deve essere fatto. Sì. Io non voglio venderlo, vorrei trovare della gente che gli interessasse qualcosa e solo che me lo tirassero avanti e coprissero le spese. Io non voglio neanche guadagnare. Ma questa è una proposta bellissima. Beh, cioè, lei praticamente mette... l'ho fatto apposta, siete alla caccia di buone proposte. Certo, giusto. Lei mette a disposizione, diciamo, il terreno e la sua officina. Sì. Adesso ci spiegherà bene che cosa faceva quando era in attività. E quindi, diciamo, a zero spese uno si trova un'attività già pronta da portare avanti. No, cioè, deve coprire le spese. Ma, sì, ma il proprietario non è interessato a farci un utile. Zero spese nel senso zero investimenti, non bisogna investire perché è già tutto lì, bisogna portare avanti. No, io ho detto zero spese nel senso che zero spese, da quello che prenderà questa roba qui, sì, da gestire, sì, si deve accaparare soltanto le spese di costi di tasse e di quelle cose lì. Io non devo guadagnare su questa roba qui. Però nemmeno non perderci. Non voglio neanche rimetterci. Bravo. Certo. Allora, ci spieghi. Questo qui è un discorso che è interessante, sì, lo mandiamo avanti, l'ho cercato anche tempo fa, non l'ho mai, insomma, riuscito a trovarlo. Però mi spieghi l'azienda di cosa si occupa? Gli ho detto prima, era un'officina d'autocarri smessa adesso. Però autocarri è un nuovo elemento. Ha tutta l'attrezzatura. Ah. Ed è del terreno agricolo che va lavorato, va migliorato, va reso produttivo. Ma sono due cose diverse o sono io che non sto capendo? Da una parte c'è un'officina per autocarri e poi c'è del terreno agricolo da coltivare. Esatto, è sempre roba mia. Certo, e lei fa tutto un pacchetto, magari si può dividere in due pacchetti, uno è interessato fa il meccanico e l'altro fa l'agricoltore, sono due lavori diversi. Ma può darsi trovare anche una famiglia che gli interessi l'uno e l'altro, chissà. Sì, vabbè, però è anche sempre difficile, deve trovare una famiglia dove lui fa, gli piace, ama moltissimo riparare i camion, lei vuole piantare le carote nel suo campo, è difficile, diciamo, come buon proposito, però va bene, io spero che ce la faccia. Senta Alberto, una cosa, lei da quanto tempo non riesce più a seguire la sua officina? 10 anni, 15. Ah, quindi è già un po' che ha smesso. Sì. E quindi lei è in pensione, felicemente in pensione, però è dispiaciuto per il fatto... Felicemente no, perché mi devo lavorare ancora qualcosa per mantenere la mia roba, perciò con le tasse che ci sono... Certo, felicemente si fa per dire. Però lei soprattutto è dispiaciuto di vedere, diciamo... Questo non lo vorrei. Che vadano in malora, ha ragione. Non ho della gente che da poterla dare. Ma senta, ma contrattualmente come si fa? Un comodato? Che tipo di... esistono dei contratti? Adesso Alessi, quello lì è una cosa... Tecnicamente, cioè, ma esiste una modalità. Va bene, Alberto, ma noi... quando una cosa costa poco, sì, dopo le modalità si trovano. Certo, è vero. Io ho pensato a voi, ascoltandovi, non solo da adesso, naturalmente, sì, perché cercate anche quella parte di cose, senza sempre tutte queste lagne, come mai, chiedere. Io cerco di dare quello che ma ho. Senta, Alberto, ma lei ha messo degli annunci, cioè come ha provato a promuovere? No, non ho mai provato niente perché non ci credo mica tanto, perché in questo periodo qui, specialmente nella nostra zona, vogliono essere assunti, vogliono le sicurezze, invece io penso che visto che siamo in tema, sì, penso che delle sicurezze nella vita bisogna arrangiarsi. No, ma però almeno comunicare questa cosa, perché se uno non lo sa, sì. È difficile che l'ho comunicato a voi. Infatti, deve lasciare la mail probabilmente, non so, deve lasciare qualcosa di modo che lo mettiamo anche su Facebook, su Twitter. Lei il telefono fisso. Ecco, facciamo mi chiamerete. Facciamo così, dato che siccome a noi non ci chiamano, non credo che ci può darsi che ci chiamino, però intanto diciamo la località dove lei si trova, così se di Modena. Ma come si chiama la località? San Prospero. San Prospero. Così, perfetto. Così almeno quelli di San Prospero oggi al bar dicono, hai sentito? No, qui lo sanno, qui intorno, è un paesino. Va bene. Allora quelli di Modena, non so. Vabbè. È difficile che uno da San Pietroburgo, diciamo, venga a San Prospero, però magari anche da San Pietroburgo. Ma sì, ma certe cose le conosco, però ho detto queste... c'è una mentalità che non ci crede neanche la gente, poi pensa ancora a tutte quelle cose di essere mantenuti, assistiti, tutelati. Alberto, non si imbarazzano in certe cose. Ha ragione. Giusto, giusto. Auguri, auguri, auguri, grazie mille. E grazie per la sua segnalazione, questa è davvero originale, bella, bello, bellissima. Sì, ce la segniamo, sì, e poi vediamo. Vado io a San Prospero quasi quasi. Cosa facciamo? Non riusciamo, avevamo un ospite, ma non riusciamo a trovarlo. Era una bella storia con cui congedarsi anche questa sera, ma vediamo, vediamo. E intanto sentiamo ancora qualche ascoltatore. Giulio da Pistoia. Buonasera. Buonasera. Niente, semplicemente volevo dire che un po' più di ottimismo forse ci vorrebbe, anche in questo periodo qui, perché mi sembra che tutti si piangano un pochino addosso, mi sembra. Niente, solo questo. Buoni propositi per il prossimo anno, ma visto che sono un apicoltore, piccolo apicoltore, raddoppiare le mie arnie. Ah, però tutto lì. Aspetterà, cioè, ha iniziato in minore, tutto piano piano, tutto che sembrava niente, dice, poi volevo raddoppiare il fatturato. Sì, raddoppiare. Beh, perché no, è ben differente. No, stavo esagerando apposta. Sì, esatto, ben differente, però me lo auguro, cioè un buon proposito qui. Va bene. Quindi raddoppiare, okay, le arnie, si chiama così. Esatto. Quante ne ha lei? Io no, ora ne ho 30 e basta. No, beh, insomma, 30. Insomma, mica... scusi, ma lei con queste 30 arnie riesce a produrre miele in modo da mantenersi lei? No. Questa è una seconda. È un buono proposito per il 2015, quello di mantenersi. No, ce ne vuole ben altre. Io sono un dipendente di un'azienda, praticamente sono un tecnico per macchine di aree verde, vie professionali. Sì, quindi insomma lei è un po' nel ramo così, diciamo, ambiente, esatto, eccetera. È molto bello, no? Cioè, io ho scoperto il mondo delle api, l'ho scoperto in circa 4 anni fa. E quando poi entri dentro riesci a capire, insomma, diverse. Bisognerebbe prendere qualche cosa anche da loro. Senta, ma lei per esempio fa il miele e lo dà agli amici o di più, lo riesce anche a vendere qualcosa? Sì. No, non posso vendere. Io Perché non ha la licenza? Solite cose italiane. Vada bene. Io sono iscritto e regolare. Però? Solo che non vendo. Ora, se aumentano, è chiaro che dovrò cambiare tutto. Anche perché sennò ingrassa tantissimo, cioè, o una o l'altra, non è che... Ma non si producono grandi quantità con le arnie. Non lo sappiamo noi, cioè quanti chili di miele vengono fuori da un'arnia? Dipende tutto dalla stagione, perché è molto stagionale, dipende. Pensi che quest'anno ne ho fatti solo un paio di quintali, quindi... Solo? Sì. E quanti ettolitri di tè si zucchera con un paio di quintali? Ma il miele si può mangiare con la ricotta, si può mangiare certo. Che detto a quest'ora ci viene anche una certa fame. Giulio, grazie e mille. Auguri, in bocca al lupo anche per il suo buon proponimento. Bello anche questo. A voi, sì, grazie mille. Quindi lo chiamiamo per sapere se ha raddoppiato le arnie. Lo chiamiamo verso giugno, però magari. Sì, non so qual è il momento in cui si produce. Però me lo chiedi delle api, che ne so. Aspettiamo qualche mese e vediamo. No, ma li richiamiamo tutti davvero, Li richiamiamo tutti. Il gioco è questo, ci mancherebbe altro. Allora, dove andiamo? Proviamo a spostarci verso il nord. Andiamo a Massimo che ci chiama da Bolzano. Sì, buonasera. Buonasera Massimo. Buonasera. Intanto che il miele è un ottimo antibiotico naturale. Quindi... Quello è il propoli però, non è il miele. No, ma anche il miele, presi 2 o 3 cucchiaini alla sera prima di addormentarsi, è un ottimo corroborante per la tranquillità. E poi dicono che sia un ottimo antibiotico naturale. Quindi tutto l'anno 2 o 3 cucchiaini di miele. Io chiamavo per il problema termovalorizzatore. Sì. Città di Bolzano. Il termovalorizzatore è stato dismesso, vecchio, è stato costruito un nuovo termovalorizzatore, spesa iniziale con l'avallo dei Verdi, paradosso assoluto, no? Penso che unici al mondo, con la loro firma, e hanno iniziato il progetto su una base di 15 milioni di preventivo, finito di costruire qualche mese fa su una spesa totale di 24. Sì. E... diciamo che... Ma scusi Massimo, perché lei era attristato dal fatto che i Verdi abbiano appoggiato? Perché, dal fatto ma no, che... cioè, un termovalorizzatore ogni tanto ci vuole. Certo, sì, i rifiuti sì. Non si possono solo bruciare, l'abbiamo detto anche prima, vanno anche e soprattutto recuperati, riciclati. La vera strategia a impatto zero i rifiuti è questa. Però siccome diciamo poi è un limite a cui si tende, qualcosa bisogna bruciare. Sì, no, ma infatti volevo solo... non ricusare, ma diciamo fare un appunto al signore di prima, perché in Germania paese, il signore diciamo, di prima? Pilota, leader del settore, Pizzarotti. Stanno tornando sul loro passo, stanno riaprendo addirittura le vecchie discariche. Con Torino, cioè, sì. Quindi non è tutta una materia da conoscere, da valutare ancora e da studiare. Quindi la sua cattiva notizia è l'accensione del termovalorizzatore. La buona notizia invece ce l'ha, lei è una bella notizia del 2013? È partito il termovalorizzatore, è stato già fermato due volte perché... E questa è la buona notizia. Ma tutte le notizie sono sul termovalorizzatore? Non ci sono altre cose, diciamo, all'orizzonte? Ma allora anche Bolzano è in Italia. Cioè è partito, poi l'hanno interrotto subito. Io pensavo che lì una cosa che partiva non la fermavate più. Va bene. Grazie mille. Ha anche un buon proposito per l'anno prossimo o no? Prego? C'ha anche un buon proposito per l'anno prossimo? Ma per l'anno prossimo... Un termovalorizzatore che comunque... Un termovalorizzatore, niente, auguro a tutti un prospero 2014. Grazie Massimo. Grazie, buona serata. Beh, questo ascoltatore aveva a cuore questa tematica. Erano i buoni, i cattivi. Anche rispettare tutti. Ma certo, io totale rispetto. Che facciamo? Facciamo Fede da Milano. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Io vi chiamo per intanto ringraziarvi dell'ottimo stile che avete in questa trasmissione che io ascolto spesso. Grazie Fede, grazie mille. Mi piace tantissimo. E poi anche per dare un tono di, come dire, di ottimismo a tutte le persone che invece si lasciano deprimere perché non riescono a pensare in maniera differente. Io lavoro con il mondo arabo da molti anni, non sono una signora giovane, sono di fede buddista, per cui non posso neanche dire la religione dalla mia parte. Oddio, però... mi sono perso, lei lavora col mondo arabo ma è di fede buddista e il suo buon proposito qual è? È quello di incrementare il mio business con il mondo arabo e ho già delle ottime partner. E qual è il suo business? Io do servizi di, diciamo che creo ponti tra le aziende che vogliono diversificare, trovare nuovi mercati e quel mondo. Per esempio il Marocco è un paese che cresce al ritmo del 5%. Mm-hmm. Ok. Quindi... Va bene, ma che tipo di servizi, così giusto per capire, Fede? Beh, adesso non vorrei offrire idee alla concorrenza. Va bene, però, Fede, non vuole offrire idee, ci fermiamo qua. Allora. Eravamo curiosi, ma va bene. Possiamo richiamarla un'altra volta. Grazie, auguri anche a lei, buona serata a tutti. Serata. Noi ci ritroviamo domani alle 18 fino alle 21 perché sentiremo anche il discorso di Napolitano insieme. Un ringraziamento a Riccardo Buccello, Isotta Scenna in redazione, Pietro La Corte in regia. Carlo Gabardini che invece vi ringrazia tutti, vi dà anche già il buon anno perché io domani non ci sarò, purtroppo. Mi spiace, e ringrazio tutti gli ascoltatori e chi ci ascolta in podcast, e ringrazio molto Radio 24 e Alessio Maurizi che quest'anno mi ha fatto lavorare con lui. Grazie a tutti, buona serata, a domani, ciao.